Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non Parenzo. È uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Crucials. Buonasera. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Siccome l'ultima puntata, caro David, ti faccio ascoltare una cosa che ti metterà una carica pazzesca in quest'ultima puntata della stagione. Oggi il 25 luglio, ma non ti dice niente il fatto che finiamo il 25 luglio e riprendiamo l'8 settembre? Guarda che curiosa sta cosa, eh? Cioè finiamo il 25 di luglio, il 25 luglio, e possiamo ricordare cosa è stato il 25 luglio nella storia d'Italia. E riprendiamo l'8 settembre. Guarda, ti assicuro che mi sto veramente toccando i coglioni, per questa cosa. Cioè, finiamo il 25 luglio e riprendiamo l'8 settembre. C'ho proprio le mani a pelle. Sembra, le mani a pelle. Apposta, a pelle. Sembra fatto apposta. Vabbè, la carica te la dà questo mini video, che in realtà qui non è un video, ma che sentiamo solo l'audio, del signor Ruffini, il mitologico Ruffini, che è stato qui ospite una volta. Ogni tanto mandiamo in onda dei pezzettini suoi, eccetera, eccetera. Era in macchina, si stava dirigendo verso un posto dove probabilmente girava delle scene, non so che diavolo faceva. E insomma, senti, senti, sentite. Questa è la Zanzara, questa è la Zanzara. Essere citati alla Zanzara. Quasi quotidianamente, quasi quotidianamente. Che gusto, beh, siamo al top, siamo al top. Io senza la Zanzara non ce la posso fare. Cioè la Zanzara è vita! Amici miei. Vabbè, salutiamo anche te, caro Paolo. Un bagno, sei a Ponza, vatti a fare un bagno, chiudiamo qua, 18 e che? 18 e 36. No, volevo dirti questo, dimmi. Amico mio, io qui ho grandissimi ospiti che forse ti passerò. Non ce ne frega una mazza questa sera, non ce ne frega una mazza. Comunque. Testa che ti vuole salutare, che ti passo subito per un saluto. No. E vuole trasformare Radio 24 in un immenso campo eolico. No, non glielo dire a Sgarbi, non glielo dire a Sgarbone. Non serve a niente, ti passo un attimo, sì, l'eolico, quello che piace a Sgarbi, esatto. Ti passo un attimo testa per un saluto, qui c'è a Casalegno che ti saluta, a Sera Chirico che ti saluta, insomma qui ti salutano tutti, ma più te ne stai a Milano più sono tutti contenti, te lo passo subito un istante al volo, eh? Sì, stai vabbè, là, vabbè, vabbè. Un bagno, mamma stai. Mia. Buonasera. Caro Testa, come stai? Ultima puntata della stagione, caro Chicco, come va? Sto benissimo, si sta benissimo qui nel mio ufficio a Roma con l'aria condizionata. Ma perché non mi volete lì? Perché non mi volete lì a Ponza? Perché mi rifiutate? Ma, mi respingete? Mi hanno detto che arrivi, mi hanno detto. Domani precipito a Ponza, signori miei. Precipito. Sei tutta una domandina così semplice. Sì. Ma come mai qualcuno parla di pericolo per la democrazia. Cioè, chi in questo momento dice che c'è un pericolo per la democrazia, di emergenza, no, autorità? Mi pare che Renzi ha dato una risposta magnifica, non è un colpo di Stato, ma è un colpo di sole, che Grillo è finito, quindi sì. Più urla e più è finito. Cioè, io e Parenzo abbiamo deciso, Grillo è finito. È morto, morto finito, morto. Morto. Un'altra è cosa, finito. Perché il professore Sgarbi, invece, a proposito di pale eoliche, è così fissato con queste pale eoliche? È contro quello che tu invece, no, quello che tu propagandi, no, come il sol dell'avvenire? No, no, diciamo che in qualche caso forse si è esagerato nel metterle anche in posti dove non andavano, sì, messi. Sì. Poi sai, ognuno ha il suo gusto estetico. Per esempio, io trovo alcuni paesaggi, sì, con le pale eoliche affascinanti, no? Beh, anch'io, devo dire, in campi aperti. Quindi, come tutte le cose, senza esagerare, vanno fatto con un po' di razionalità. Ma il professore, diciamo, sai, è conservativo, il professore è conservativo. È un po' conservativo ed è un po', diciamo, si può definire Sgarbi un po' esagerato? Beh, leggermente, leggermente. Leggermente. Buona ponza, bene. Ciao Chicco, ciao. Grazie, ciao. Buon lavoro a voi, ciao. Amici miei che siete con i camion, con le macchine, intasati, in traffico, che non andrete in vacanza perché non c'avete un euro. Eccoli due dentro un albergo lussuosissimo, dentro un albergo lussuosissimo a Pozza. Chicco Testa. Ma perché devi David dire, Parenzo? Ma perché devi scattare? Lavorano al telefono, soprattutto Parenzo. Adesso lasciamo perdere Chicco Testa, che tanto c'ha un sacco di soldi. Che Parenzo al telefono da un albergo lussuosissimo di Pozza. Voi che siete in macchina, che siete sui camion, che sgobbate dalla mattina alla sera. Ecco come lavora la gente al soldo di Confindustria, la gente pagata dagli industriali. Eccolo. Lucia, attenta a quello che dici. No, no, io sono attentissimo. Guarda che noi ce la tiriamo, ma non è vero che siamo a posta. Siamo nel mio ufficio con l'aria condizionata a palla, perché fuori fa un cazzo della Madonna. Aspetta, attenzione, perché Grillo ha cambiato opinione stasera, Grillo ha cambiato opinione, perché ha detto, prima ha mandato i suoi a trattare con Napolitano, a farsi proteggere da Napolitano o a cercare un colloquio con Napolitano. Oggi ha detto aridateci il puzzone, cioè, come sapete, Mussolini. Il regista di questo scempio è Napolitano, cioè della riforma che si sta discutendo, di cui gli italiani non frega una mazza. Il regista di questo scempio è Napolitano, che dovrebbe almeno per pudore istituzionale dimettersi subito, e con il quale le forze democratiche non dovrebbero avere più alcun rapporto. Alcun rapporto, cioè, ma come, ieri sono andati al Quirinale i signori dei 5 Stelle. Vabbè, dai. Oh, a proposito di quello che è successo ieri, caro Parenzo, immagino che lì a Ponza i bagnanti, no, discutano di riforma del Senato. Ecco, fai una cosa corretta. A un certo punto, alle 7:15, vai al porto, sì, con la gente che arriva dai traghetti. Dici, scusi, lei sa che cos'è la riforma del Senato? Alle 7:15 ti do questa missione, invece di non fare una mazza lì a Ponza. Vado al, guarda, posso farti subito una grande inchiesta. No, ma non negli alberghi dei ricchi. Fali... No, no, ma chi alberghi? Signora, buongiorno, scusi, è la Zanzara. Lei è appassionata del grande tema della riforma del Senato? Posso rispondere? Ha detto che non gliene frega una cippa, praticamente. Cioè, ha detto non posso rispondere, che tradotto... Aspetta un attimo. Le interessa la riforma del Senato, è fondamentale per il paese. Vabbè, questa è la radio, Taverna, 5 Stelle, questa gente mi fa schifo. Chiedevamo di parlare in aula, chiedevamo di spiegare il perché dei nostri emendamenti, che sono solamente 200. Signore, posso dire una parola un po' forte? Questa gente fa schifo. Come alcuni dei 5 Stelle, secondo me, non sanno di cosa parlano, appoggiano i dipendenti della Camera, e del Senato, i quali protestano per l'aumento, anzi per la diminuzione, che vedremo poi come andrà a finire, io non ci credo. Questo troppo. È uno scandalo vero. Cioè, i 5 Stelle, non solo i 5 Stelle, anche alcuni di NCD, alcuni senatori e deputati appoggiano i dipendenti di Camera e Senato, che insieme si oppongono alla diminuzione del tetto degli stipendi, no? Massimo stipendio 240.000 euro, loro si oppongono. Ebbene, ci sono alcuni deputati che li appoggiano la super casta dei dipendenti di Camera e Senato. capito? La supercasta. Ci dovrebbe essere una manifestazione al giorno fuori da Camera e Senato contro questi signori. Martelli, 5 Stelle. Mi dispiace dirlo, è una campagna di odio verso l'istituzione Senato. Si è cominciato dicendo i funzionari del Senato ce l'hanno con me perché io voglio togliere il Senato, i dipendenti del Senato sono dei fannulloni, quella è gente che ha vinto un concorso, al limite l'inefficienza nella pubblica amministrazione che ha emanato dei concorsi con degli stipendi così elevati, non potete incolpare le persone. Ma chi incolpa le persone? Ma state zitti, un minimo di serietà, un minimo di pudore. Ma è con noi il mitico professor Becchi, buonasera. Buonasera a te, grazie di avermi chiamato per questa ultima fantastica vostra puntata a questo punto, perché se ho capito bene è l'ultima di quest'anno. Beh, no? Ultima magari per sempre, che ne sappiamo, no? Ultima di quest'anno. L'ultima per sempre, guarda, daremo l'annuncio. No, per sempre non credo. No, insomma, no, sì, no, basta, a meno che non ci piglia una calci nel culo. E come si fa a vivere senza la zanzara? Io e Cruciani. No, ripeti questo concetto, separati. Paolo, ripeti questo concetto. Come io e Cruciani non lavoreremo più insieme, questo è l'annuncio di oggi, questa è l'ultima. Ma non è vero, perché dici cazzate? Non è vero. Vediamo cosa succederà l'8 se ne vediamo questo. Beh, ma allora vengo io a lavorare con Cruciani. Allora vengo io a lavorare con Cruciani. No, però vorrei Paolo, che tu ripetessi il concetto che hai detto prima. Come si fa? Come hai detto? Come si fa a vivere senza la zanzara, ho detto. Perché è vero, fa piacere ogni tanto sentire un po' così. Mentre sei magari in macchina, stai preparando. Senti, a proposito, però non ci sottraiamo alle cose serie. Perché tu. Ormai io non ho capito, il tuo rapporto con Grillo qual è? Me lo vuoi spiegare, caro Paolo? Io non si è capito bene. Cioè, innanzitutto mi sembra che tu hai il rapporto diretto con Casaleggio, non con Grillo, giusto? No, io non intendo entrare nel merito dei miei rapporti personali. Non ti voglio dire le amanti che ho e neanche so dei rapporti personali. Ma perché hai amanti? Hai amanti? Ma non le ho. Ma anche allora, se vedi che avere, non te lo direi di certo. Ma no, me lo diresti. Scusa, in Camera Caritatis me lo diresti. Secondo me me lo diresti. Secondo me me lo diresti. Però le femmine però le femmine ti piacciono. Ma certamente, non l'ho mai negato. C'è, cioè, le studentesse dell'Università di Genova, per esempio, le tue allieve, ci sarà qualcuna che ogni tanto. No, perché le studentesse bisogna lasciarle, cioè bisogna l'università è una cosa seria. Però ogni tanto l'occhio cade pure lì. Assolutamente no, sono contrario, ma è una cosa proprio di principio. Vabbè, ma l'occhio cade in automatico, non è che. A parte conto l'etica mia professionale. Cioè, anche se vedi una bella donna, proprio cancelli subito lì all'università. Una no, bella... non è che cancello, guardare posso guardare, però voglio dire, cioè, questo non c'entra assolutamente. Cioè, non avresti mai una storia con una tua allieva, mai. Insomma, dipende poi dalle cose come evolvono. Mia moglie è stata, se vogliamo, una mia allieva inizialmente. Come è stata una tua allieva? Nel senso che era una studentessa che ho conosciuto tutto lì. Beh, lo vedi, allora è possibile. Ma adesso io sono sposato. Ah, vabbè, adesso che c'entra. Vabbè, allora ragazzi, c'è il traffico, poi entriamo nel merito con Becchi perché dobbiamo parlare di una cosa seria. Siamo in, come dire, sull'orlo di un colpo di Stato, cioè c'è una dittatura che sta avanzando, queste riforme preparano il terreno per l'arrivo dell'uomo forte, per una restrizione delle libertà. A me non mi pare, caro professor Becchi, so che la pensiamo in modo diverso, ma a me non mi pare proprio. E come si fa a vivere senza la zanzara? Scusa. Allora, siamo qui con il professor Paolo Becchi, molto vicino ai 5 Stelle, anche se libero pensatore, insomma dice il cazzo che gli pare, senza ordini da nessuno. Bravo. Questa è la realtà, professore di... Anche Parenzo lo ammette. Io ammetto la libertà intellettuale di Becchi, poi considero quel che dice delle follie assolute. Ma non ha ancora detto niente, un po' a prescindere, anche quando ordina un tramezzino al bar, per me in quel momento quando lo fa una follia. Perché questi sono pregiudizi allora nei miei confronti. Parenzo è il re dei pregiudizi. E vabbè, quando verrà a Genova inviterò anche lui a mangiare il pesto in casa mia, vai. Così non si arrabbia. Sto scherzando. Vabbè, professore, io voglio dire una cosa, ma sì. Napolitano che cosa merita secondo te? Paolo, cosa merita? Dopo tutto quello che sta facendo, cosa merita? Secondo il tuo punto di vista, dimmela tutta. Guarda, meritava la messa in stato d'accusa e purtroppo la cosa è stata liquidata, anche perché forse non era presentata nel modo migliore, è stata liquidata in 20 minuti, ma sta violando continuamente la Costituzione, il fatto che intervenga sulla riforma elettorale, certo, sulla riforma del Senato. Ma ti capisci che Grasso lascia parlare liberamente, Grasso sto pensando al Presidente del Senato, dice che ci sarà una discussione ovviamente aperta, eccetera. Tintin viene richiamato da Napolitano, va a colloquio da Napolitano, torna e dice no ragazzi, qui bisogna chiudere tutto, nel giro di una settimana dobbiamo aver finito i lavori. Beh, se non è un'interferenza questa, scusa, cioè voglio dire, è chiaro che è intervenuto il Presidente della Repubblica per dire no, bisogna assolutamente trovare il modo perché si eviti questa situazione. Ma in un altro paese, che metti con la nostra stessa Costituzione, ci sarebbero già i carabinieri al Quirinale? Ma ci sono delle regole che possono essere rispettate, nel senso che la nostra Costituzione prevede che quando il capo dello Stato oltrepassa i suoi poteri o qualcheduno crede che li abbia oltrepassati, possa essere immesso in stato d'accusa e poi inizia una procedura. È un uomo pericoloso adesso, è un uomo pericoloso. Ma non è pericoloso. Vedete, il problema è che qui sta avvenendo una trasformazione delle nostre istituzioni che forse non ce ne rendiamo conto. Noi andiamo verso un Senato non elettivo che dovrebbe essere il Senato delle autonomie. Ora il Senato delle autonomie funziona in un sistema federale. Noi non siamo uno Stato federale. Un Senato delle autonomie in uno Stato come il nostro è come, possiamo dire, è come un cesso in una sala da pranzo. No, su questo però devo dire la verità, Parenzo, su questo qua non ha tutti i torti però. Cioè noi vogliamo creare, per la fretta di Renzi, vogliamo creare una roba che non esiste, il Senato delle autonomie, 100 rappresentanti, a che serve? Non serve, però questo che ma che c'entra con la libertà però? Che c'entra con la dittatura, professore? Senti, il problema è soltanto questo. Il 30 di agosto c'è l'incontro al Consiglio europeo dove Renzi deve dimostrare di aver fatto qualcosa. Ora, dal momento che, nonostante abbia preso il 4,8%, non ha fatto un cazzo, deve almeno andare lì e dire vedete che qualcosa l'ho fatto. Questo è vero. E questa è la realtà, è questo. E non sono io soltanto a dirlo, loro devono assolutamente approvarla prima della chiusura del Parlamento. Però questo con la deriva autoritaria che c'entra con la deriva autoritaria, Paolo, scusami. Senti, stiamo andando verso, stai a sentire, un Senato non elettivo, una Camera di nominati e un capo del governo assopiglia tutto. Anche in altri paesi il capo del governo conta molto, dai. Sì, ma una cosa del genere dove praticamente non c'è spazio per le opposizioni e decide in Italia, dai. Ma stai a sentire, metti insieme. No, ma stai a sentire tu, amico mio, stai a sentire. No, ma ho capito, la riforma del Senato, l'Italicum. Non elettivo, con l'Italicum e ti rendi conto che, come dicono i giuristi, il combinato disposto è una mina, cioè salta l'intera organizzazione. Ma c'è un rischio, come dice Grillo, di Hitler, Mussolini, c'è un rischio veramente che... Ma no, la storia non torna. Beh, allora perché allora Grillo dice cazzate, quando fa... Stiamo andando verso quello che i politologi definiscono la post-democrazia, cioè l'idea che la democrazia come l'abbiamo conosciuta... Ma la gente va sempre a votare però, Paolo, la gente bisogna essere... Farà soltanto quello, tutto il resto verrà fatto dagli altri. Ti pare poco votare? Certamente tantissimo, vai a votare, poi però tutte le altre cose voti 4-5 anni, poi lasci una cambiale in bianco per quel periodo. Ma la democrazia funziona anche così, la democrazia in realtà finora per fortuna in altri paesi. Parenzo, che stai facendo? Che stai prendendo il cocktail, Parenzo? Stavo facendo un cocktail, si ti saluta tra l'altro Sebastiano Lombardi e Lenoir Casalegno. Ma che si sono appena sposati e già stanno a Ponza. Ti salutano, sono qui a Ponza, magari te li passerò e ti... Ma io non ho capito, si sono sposati qualche giorno fa, che cosa fanno adesso a Ponza a un convegno? Ma perché? Verrai anche tu purtroppo, devo dire purtroppo, perché domani arrivo, faccio un casino, ti giuro, faccio un casino domani, domani arrivo. Più di quello che hai fatto in questo anno di lavoro, mi pare che arrivo e faccio un casino, Ma non c'è bisogno. Professore, le fistole anali come vanno? Aspetta, le fistole anali voglio sapere, la cosa più interessante sono le fistole anali del professor Becchi. Che cosa, scusa? Le fistole anali come vanno? Ah, bene, però il libro purtroppo non sono riuscito a pubblicarlo. No, quello vabbè, d'accordo. Trovatemi un editore, c'è un libro meraviglioso. Ma come vanno le fistole? C'è una storia d'amore. Dentro nell'anatomia del dolore ci ho inserito una storia d'amore, ma non riesco assolutamente a trovare un editore. Trovatemi un editore. No, vabbè, le fistole quello vanno benissimo. Cioè, non è il paese che ce l'ha nel culo. Io non ce l'ho più nel culo, è il paese che comincia a avercelo nel culo, tutto lì. Ma tu non ce l'hai mai avuto però nel culo, scusami, abbi pazienza. No, lì il dolore era forte, ti posso assicurare, sì, che era veramente forte. Ho patito le pene dell'inferno. Cioè, soprattutto quando qualcuno, quando un medico ti andava ad analizzare dentro il culo. Insomma, poi immagina, ma anche guarda, cioè sei stato sodomizzato anche in parte. Indimenticabile, sì, insomma di tutto, ho partito, guarda, preferisco un'esperienza. No, ma io voglio capire, c'è stata anche una specie di sodomia, cioè delle dita messe dentro il culo, insomma, spiegami. È ovvio che quando vai a fare quelle visite lì ti succede anche quello. Mamma mia, ma ho capito, Parenzo, Sì, non è che... Ma francamente non è che è un'immagine agghiacciante, penso che non riuscirò a dormire all'idea di quello che hanno fatto il professore, ma quello proprio non riesco a dormire. Mamma mia, senti, scusami un attimo, ma questi grillini che prima vanno al Quirinale, poi oggi Grillo spara contro il Presidente della Repubblica dicendo che non ci vanno più andare, come li definisci? Cioè, come allo sbaglio? Guarda, da un punto di vista psicanalitico si potrebbe parlare di una certa schizofrenia, perché sorprende un po' questa cosa. Io sono dell'idea che non dovevano andare al Quirinale, ma assolutamente, l'ho anche scritto. Oppure ci dovevano andare col fucile, forse. Ma no, non c'è bisogno di fucili qui. Bisognava, e io credo che questo sia quello che è apparso oggi sul blog, semplicemente dire no, è il garante. Ma scusami, tu vai da chi ha costruito, il regista dell'operazione, a dire ma lei è il garante. Ma se sono anni che stiamo dicendo che lui è il regista dell'intera operazione, di questo che io ho definito il colpo di stato permanente. Però significa che non c'è la guida, cioè sono schizofrenici sti grillini allora, professore? No, ho detto da un punto di no, è una cosa che sorprende, cioè effettivamente ha sorpreso. Non, loro possono magari dire ma gli abbiamo tolto l'alibi. Però abbiamo tolto volevamo parlare con che manco l'ha ricevuti con... poi, perché dice che era indisposto, capito? Ma non Napolitano li ha neanche ricevuti, cioè, ma capisce, come con Renzi, vogliamo parlare con Renzi perché così gli togliamo l'alibi, vogliamo parlare con Napolitano così gli togliamo l'alibi. Attenzione, perché qui a suon di togliere alibi ci facciamo noi un alibi. Ma la Boschi, quando tu guardi la Boschi, che pensi? A una una che fa le riforme o un'altra o altre cose? Ma io non la Boschi non la vedo granché, perché non guardo la televisione, quindi non so, francamente mi capita magari di vedere qualche immagine su quando guardo su internet, ma no, non è che lo vedo. Ma cioè Boschi, una statista non credo, o più una credo, donna immagine? Non credo che, bisognerà vedere poi chi... Guarda, qui c'è un rapporto molto chiaro. Berlusconi ha detto a Renzi tu ti prendi il Senato, e Renzi ha detto a Berlusconi allora io mi prendo la Camera. Insomma, ci sono un po' divisi le cose. Vabbè, alcuni dicono che ci siano anche le questioni relative alla giustizia dietro, di patti, eccetera. Ma tu sei contento della soluzione di Berlusconi nella vicenda Ruby, professor Becchi? Ma guarda, ti devo dire una cosa, io sono sempre stato un garantista, lo so, ahimè il Movimento 5 Stelle è giustizialista, ma io sono sempre stato un garantista. Per cui sei contento che Berlusconi in questa vicenda a Rubin. Me francamente, ma contento no, dico francamente, mi sembrava l'accusa nella fattispecie, sì, su quest'ultima costruita sul nulla, questo lo devo per dire. Per cui da un certo punto di vista sei soddisfatto? Non è che sia contento, mi sembra che la giustizia abbia lavorato come doveva lavorare, non guardando in faccia nessuno. Però un po' è stato perseguitato da questo punto di vista per le donne eccetera Berlusconi sulla vicenda La giustizia si è reso conto che lì effettivamente non andava bene. Bisognerà adesso vedere se ci sarà ricorso in Cassazione. Però voglio dire, io sono un garantista. Io voglio dire, non metto in galera una persona per 6 o 7 anni perché è andato a puttane. No, a puttane, sì, ho capito. Grazie professore, a presto, abbracci, viviamo e lottiamo. Parenzo, che è sta storia della separazione tra me e te? Ma che sei scemo sei? Oh, ma sei impazzito. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Buonasera, allora siete due facce di merda ovviamente. Come si fa a vivere senza la zanzara, scusi? Ciao Cruz, alza. Anzi, Parenzo, ti presento due signore, due care signore che sono per state qui. L'ultima puntata insieme, poi addio, arrivederci. Tutto finito con quelli che mi vogliono male. Ciao, oggi vi salutiamo. A proposito di quelli che ti vogliono male, e prima di perché mandare. Non mi sentiranno mai più, diciamoglielo, dai. Diciamo. No, ma non è vero, non dire che... sì, ma non è vero. Non mi sentiranno mai ma più. Ma non è vero. Non sono poi qui. Quindi insultatemi ora perché poi non ci sarò. Non è più. Vero, non è vero. Più. Non saremo più insieme. È finita. Hashtag è finita. Questo è l'hashtag dell'estate. È finita. Ora divertiamoci. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Allora, prima di farvi sentire un saluto, alcune considerazioni della signora Vanna Marchi e della signora Nobile, Nobile, le tue amiche, devo dirti che ho letto oggi una cosa fantastica, perché delle donne israeliane, che cosa hanno fatto? C'è una straordinaria pagina Facebook aperta da donne israeliane che hanno scritto sulle tette, sul culo, su tutte e due le natiche, sulla pancia, eccetera. I love, com'è che si dice in inglese l'esercito israeliano? IDF, una cosa del genere. Tzal, no, Tzal, però è Israelian Defense Force, credo che sia. Ah, cioè, certo, il simbolo dell'esercito israeliano. Hanno detto anche una cosa tremenda. Che è stata criticatissima nel mondo arabo e non solo nel mondo arabo, perché hanno detto siamo qui ad aspettarvi cari soldati israeliani, e si sono fatti una a un certo punto c'è un culo fantastico di una signorina ebrea con scritto fuck Hamas, cioè fuck su una natica e Hamas nell'altra natica. Beh, siamo veramente qui al top, eh. Siamo veramente al top. Ma ragazzi, queste cose le fanno solo in Israele, cioè non, in altri paesi non esistono queste cose. Solo in Israele c'è una che si fa fotografare il culo, un bellissimo culo con scritto fuck Hamas. Io voglio metterla nella mia pagina, sai, nella mia foto su Twitter, questo sì. Culo fantastico con scritto fuck Hamas. Lucia, attenta a quello che dici. Lo so, hai ragione, avvocato Marra. Questo è molto bello quello che hai detto. No, lo voglio mettere, forse addirittura. Vabbè, lasciamo perdere. Intanto, Nobile Marchi. Sono Andrea Vivere, Miami. Quella è la mia città. Perché è una città senza tempo, una città straordinaria dove la follia impera e dove si parla spagnolo e inglese. E allora divertiamoci! D'accordo! Vogliono andare a vivere a Miami, Stefania Nobile vuole andare a vivere a Miami. Capito? Che schifo. Eh? Io guarda, piuttosto che stringere, non stringerò mai la mano alla signora Marchi. Sì, ma parla bene Nobile. Davanti al microfono, amico mio. Piuttosto che stringere la mano a Stefania Nobile, Vanna Marchi, io mi taglio un coglione, guarda. Ma adesso stai esagerando, su. No. Ma che vuol dire stringere la mano, dai, su. Poi non ci sentiremo mai più. La coppia si è divisa. Ma non è vero, che cazzate vedremo, che dici. Sì. E vedremo che cosa succederà. Io piuttosto che stringere la mano a quelle due arpie, a quelle due erinni, allora noi abbiamo la Zanzara Radio 24, ve la vendiamo a 900.000 euro. No, è poco veramente. Allora mia figlia vuole il disco di Cavaglio. Cavaglio, come sanno qua? Carvaglio. Ecco, io invece cerco il disco sì, di Adriane. No, ma hai capito la vita com'è? Oh ragazzi, la vita è così. È una cosa meravigliosa. Allora divertiamoci, d'accordo? Comunque, cosa hai detto? Che pur di non stringere la mano a Vanna Marchi e a Stefania Nobile, ti faresti? Non ho capito. Mi taglierei una palla. Cioè, allora, tu già sei circonciso. In più te tagli pure la palla, non resta più niente. Questa mi pare una comunicazione che... Ma no, come per dire, essendo tu già circonciso... Cioè, immagino che sei circonciso, no? Sai come... Ma immagino che sei circonciso, no? ma questo è evidente, certo. Oh, sei circonciso, ti vuoi tagliare la palla? Vuoi rimanere... Ho detto, qualora mi capitasse. No, ma era una battuta, amico mio, su, dai. Sì, no, ma ho detto, qualora mi capitasse. Mi senti questa, invece, devi, senti questa. Devi stringere la mano alla nobile, dico, no, sì. Guarda, piuttosto mi taglio un coglione. Milano io credo sia una città fantastica, però bisogna ricominciare a crederci, perché guarda a chi la lasciamo in mano. Guarda, le puttane. Guarda. Allora ragazzi, se sono tutte puttane qui, cioè non bastano gli uccelli di tutta Milano per tutte queste puttane che ci sono, ma non si può. Ma arrivano anche dall'estero, eh? Ecco l'altra sociologa, no? Il commento della sociologa. Arrivano anche dall'estero, eh? Anche dall'estero! La sociologa, capito? La signora. Sono di un'eleganza quelle due donne. Sì, metti la voce, metti la voce come hai detto. Le labbrine, mettile più vicino al microfono del coso, non lo distanziare troppo. Sono di un'eleganza quelle due donne. Sì. Pazzesco, sono proprio donne eleganti, belle, raffinate. Ma ci vogliono uccelli, più uccelli di tutta Milano. Senti, senti questo. Fai una campagna antidroga. La campagna antidroga. A chi dice che per divertirsi bisogna farsi? Allora fatevi di Vanna Marchi e fatevi di Stefania Nobile, perché noi siamo la droga che non lascia traccia nel sangue. Bella questa. Però bella, è un bello spot. Bella. È tutto finito, lo sai, no? Va bene, ragazzi. Cos'è? Cos'è che? No, ma dov'è che va in onda questa porcheria? Ma la mandano loro, è una cosa su YouTube che mandano loro. Ma dove? Non c'è un canale su YouTube, la loro pagina Facebook, amico mio. No, spiegami la giornata, se queste si alzano già la mattina alle 8, quando tu già c'hai i coglioni pieni, ti alzi la mattina alle 8. Allora, Stefania! C'è un momento, sono le 8 del mattino, attimo, fammi lavare i denti. Lavarsi i denti! Ci si urlano a vicenda tutto il giorno e poi registrano questa porcheria. Andrea, provincia di Padova. Andrea? Ragazzi, ma perché ogni volta mi fate sti pezzi? No. Me lo fanno apposta, capito? Sbagliano i canali, non sanno prendere gli ascoltatori. Andrea, avanti, su. Sono io, Andrea, buonasera. Avanti. Allora, il signore lì, vorrei innanzitutto, rivolgendomi ai popoli dell'umana famiglia... Ai popoli? Scusa? Dell'umana famiglia. Sì, ma quali sarebbero i popoli dell'umana famiglia, amico mio? Quali sarebbero i popoli dell'umana famiglia? Le persone umane che sanno capire cosa vuol dire la parola capire, innanzitutto, e la parola genocidio. Quindi al signor Parenzo vorrei sapere se quel genocidio che è in corso in Palestina è per volontà dei cittadini israeliani o dell'oligarchia al governo palestinese. Israeliano, la soluzione qual è? Qual è? Faccia promotore, diventi onesto una volta tanto, Parenzo. La soluzione è non due ma tre stati, affidare alla democrazia, a un referendum degli abitanti di quei territori. No, scusami, vabbè, ma siamo al delirio, aspetta, lascia parlare. Scusi. Vogliono vivere. Lascia parlare, solo lascia parlare. Tre israeliani. Adesso viene uno che lo porta via. Come? Coloro, signor Cruciani. Sì, dica. Coloro che vogliono vivere solo tra israeliani lo dicano. Sì. Coloro che vogliono vivere solo ecco tra quello, palestinesi c'ha lui la soluzione. Lo dicano. Sì. Ah, che bravo. E coloro che vogliono vivere in umana comunità assieme in umana comunità. Certo. Al centro di quel territorio. Beh, questo è interessante. Se la democrazia, come le piace come idea? Sì, non è male. Una cosa male. Molto come interessante. Mai, se ne potrebbe occupare anche l'ONU, direi, direttamente. Un genocidio, sì. Quanto impiega a realizzarsi? Un giorno, un anno? O beh, sono cose interessanti. Io mi sto dicendo, quando mi sto chiedendo, Parenzo quando impiega un'ambulanza ad arrivare? Quando il signor Parenzo disonesto, disonesto dice, certo. Noi israeliani bombardiamo perché loro ci mandano i razzi, ecco, ma prima che mandassero i razzi... Prima che mandassero i razzi? Voi perché li avete costretti in quella situazione per decenni, sì, occupando e impedendoli di essere un popolo come meritano e come l'umanità arriva, pretende? Dov'è esattamente? Alle province di Padova dove? Prima che loro provincia di Padova dove? Scusi, Andrea. Prima che alla, basilica del, alla Basilica del Santo. Ma quale prima Basilica del Santo? Prima dell'invio dei razzi. Sì. Voi eravate lì con i piedi sopra la testa di quelle persone. Stefano da Padova, buonasera. Stefano, sempre Padova, non so perché. Sono Stefano di Padova. Allora, intanto mi dispiace tantissimo che sia l'ultima puntata, perché a differenza di quelli che lavorano, io sono in vacanza e mi sto grattando le palle all'Isola Club di Albarella, che il signor Parenzo conosce, giusto Parenzo? Molto bene, certo, sono stato da ragazzino, stavo ad Albarella, venivo. Ma è una tristezza, Albarella, ma è una tristezza infinita, ma è pieno di cose, ragazze. Ma sarà pieno di zanzare, là, è una cosa tremenda. Ma quali zanzare, ma guarda assolutamente. Ma perché, ma vada Ibiza, vada Ibiza. È un posto molto bello invece. E lei Crucez, che è un grandissimo e raffinato gourmet della toppa, lei dovrebbe... Ma che c'entra questo? C'entra il suo bel perché. Gourmet, allora, della toppa, una cosa assurda, gourmet, questa non l'avevo mai sentita. Vabbè, ma Stefano, c'è un grande ospite tra poco, che devi conoscere, ecco, dalla allora, voce. Allora vado subito veloce. No, vai Stefano, veloce, poi c'è la borsa, qui siamo massacrati. Di coglioni incredibile, traffico e borsa, dovresti ammazzarlo. Grandi ospite. Ma sei il numero uno, Stefano, sei il numero uno, sei il numero uno. Ripetila un po' questa cosa, ripetila. Che di borsa e traffico nei coglioni pieni, non ne posso più. Ma adesso quello che può, lei può dire quello che vuole, non me ne frega più. Uno. Chi c'è? Chi c'è? No, ma c'è la borsa prima, chi c'è? Chi c'è? È una cosa gravissima, Cruciani, io la seguo sempre con una certa rivoltanza, però la seguo, Sono Gianluigi Nuzzi, non so se mi ha riconosciuto. Ah sì, che ti ho riconosciuto, Gianluigi, dai. Come state? Bene, non come c'è male, state? Combattiamo. Fra poco abbiamo il professore, fra poco mi sa, Beh, Carlo Dormina. Il professore deve denunziare livello. Qualcosa di gravissimo. Gianluigi... È in rottura con Berlusconi. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, non se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Beh sì, ma le due rotture di coglioni incredibile, traffico e borsa, dovresti ammazzarle. Attenta a quello che dici, perché... gonna spin gonna mess me. Che tempi, che tempi. Aperto la trasmissione con Ferrara, stavate eiaculando tutti e due. Siamo qui a Zanzara 800240024, ultima puntata. Poi ci separiamo e dall'8 settembre. Oddio, che palle con questa storia, ma se è una cosa finta, perché devi... Io non ci sarò, voglio fare questo annuncio, tutti quelli che mi odiano, io dall'8 settembre non ci sarò più, ti passo un ospite al mio fianco che devi riconoscere la voce. Ancora con questa voce da riconoscere. Sì, devi riconoscere ma la voce, siamo già stanchi di questo gioco, no, che fai lì, non è tra un gioco, cocktail e l'altro. Tra un cocktail. La fine di tutto. Ah, tra l'altro mi ha parlato malissimo di te. Sì. Bisignani. Sì. Guarda, non so più Bisignani, ma me ne farò una ragione, Stasera presentiamo il libro e il direttore con Bisignani. Ti passo una persona, devi riconoscerla dalla voce. Oh, sarà chi è? Avanti. È difficilissimo, Giuseppe, ciao, come stai? Ciao, sto bene. Chi sei? Sebastiano Lombardi, no? Chi c'è? No, Sebastiano Lombardi. Chi è Sebastiano? Ma che ne so, Lombardi? Ma non lo so. Aiutami. Ma sono Alessandro Milan. Ah, dai, Alessandro! Ma come parli, Alessandro? Come parli? Come sei tutto. Sei tutto e adesso avevi cambiato voce prima. Avevi cambiato ma voce. No, ma che voce? Ma tu dovresti vedere David come me, con un costume infradito. No, ma veramente infradito, vergogna. Ma, mentre lavora con cocktail in mano, come al solito. Sì, c'ha il cocktail adesso, l'ha finito un paio. Cioè, mignotte intorno, no? Puttana intorno, no? No, perché quello no, perché quello, perché quello per carità, quello per carità. Però arrivano, arrivano. Bella la vita, bella la vita. Conduttori e co-conduttori di Radio 24, tutti là su bordo piscina, cocktail in mano. No, non siamo a bordo piscina, no, siamo ben distanti, però il cocktail c'è, l'infradito c'è, i pantaloncini ci sono, David tiene banco qua. No, ma David dice che non torna in onda. Tu quando è che torni in onda? Io torno in onda l'1 settembre. Cioè, sei ufficialmente in vacanza tu? sì, sono, sì, sono ufficialmente, beh, però faccio il programma con Manera, dai, pubblicizza il mio sabato alle 9 del mattino. Che lecchinaggio, una cosa pazzesca. Beh, ma dai, che dobbiamo fare. Ciao ragazzo, ciao. Ciao. Rocco Siffredi ieri, l'altro ieri alla Zanzara, ora che Berlusconi è stato assolto, spero che accolga la mia proposta a fare un film con lui. Presidente, finalmente, adesso io spero che lui mi dia retta una volta per tutta, una volta che è stato assolto, è stato provato che lui è una persona onesta e si diverte, che possa realmente decidere di venire a fare un film con me, direttamente, sul professional, dove tutto è trasparente, libero. I voti di Rocco Siffredi sui politici e il sesso. Io ti dico all'istante quello che sei. Subito, Santanchè? Santanchè, grande maiala. Renzi? Ma Renzi, uno che gli piace la patata, però non è un grande maiale, sono stressatore, uno abbastanza tranquillo classico. Grillo, Beppe Grillo. Grillo è un gran maialone, Grillo si diverte, Grillo è grande. E se dovesse scegliere tra la Lucarelli, parliamo di Selvaggia Lucarelli, e Maria Elena Boschi, chi sceglie? A tutte e due do due ruoli completamente diversi. Secondo me la vera maiala è la Boschi. Selvaggia è una che aggredisce molto, molto strong, ma secondo me poi alla fine è un agnellino. La Boschi secondo me è un grande animale. E lei Crucez, che è un grandissimo e raffinato gourmet della topa, lei dovrebbe. Allora, devo dire la verità, caro Parenzo, qui c'è stata pure addirittura oggi una risposta della signora Lucarelli, adesso va bene tutto, però stiamo scherzando. Ha detto magari si è sentita offesa, io la capisco. Ma che offesa, ma non hai capito niente. Io le chiedo scusa. Ma non devi chiedere scusa a nessuno, sei un buffone, sei un cretino. Chi mi pare, se si è offesa chiedo scusa. Ma non si è offesa per niente, ma smetti di fare il cretino, di pentirti. Tu devi saper chiedere scusa, devi essere più umile. Sei un poveraccio. Devi chiedere più scusa. Ma guarda, sei un poveraccio. Devi chiedere di più scusa quando offendi. Ma non c'è nessuno offeso, io non ho detto niente, tra l'altro, in questo caso. Beh, cosa si può chiedere scusa se non ci è rimasto male? Ma non devo chiedere scusa a nessuno. Scherzando, scusi, signora Selvaggia. Io le chiedo scusa per parte. Ma non c'è neanche a chiedere scusa. È una parola, una cosa che ha detto Rocco Siffredi. Cosa c'entro io, tra l'altro, in questo caso? Ma non me ne frega niente poi di chiedere scusa a nessuno. Figuriamoci, chiedo scusa a Selvaggia Lucarelli per questa roba qua. Ma sono fatto diverso e chiedo scusa. Ma sei fatto diverso? Fai il finto. No, tutt'altro. Ma smetti. Ma non c'è da chiedere scusa a nessuno. Ha detto agnellino a Sorete, come per far capire che invece non è un agnellino, lei ha letto, no? Questo dice. Vabbè, meglio stare zitti in questo caso. Luca da Firenze, dai, Luca. Buonasera. Dimmi. È l'ultima puntata e io vorrei dire una cosa che non avete detto voi giornalisti messi seduti lì a bordo piscina, vero? No, Parenzo è seduto a bordo piscina, io non c'entro la mazza. Io sono qui a Milano a lavorare in studio. Con l'isterica non si può né parlare di passera, né di topa, né di topolina, né di patatina. No, ma che c'entra questo adesso, Parenzo. Luca? Smettila, no, dai. Che c'entra? È isterica e lei sta lì a parlare ancora di cose che lui non ha mai visto, se l'ha viste in qualche video, forse in qualche parte. In fotografia, fotografia forse, non lo so, ecco, o forse lì in piscina, a bordo di piscina, se ha modo di vederlo. Comunque io volevo dire una cosa, che noi siamo sotto una super dittatura. E qual è la super dittatura, scusi? Le spiego subito, lei la conosce la supposta K? La supposta quella K non la conosco. No. Ecco, è la supposta che i politici hanno messo a tutti gli italiani, che una volta messa non scappa. Ha capito? Ah, in questo senso, non scappa di queste cose. E quale sarebbe questa supposta K? Le tasse. Vabbè, le tasse, va bene. I giornali pagati da noi poveri contribuenti. Giusto anche questo, togliere tutto il finanziamento pubblico, poi? Noi, che vuole? Le energie alternative, vogliamo parlare di energie alternative, pale eoliche, turbine? Che c'entra quello adesso, scusi? No, no, c'entra, c'entra, perché qui si sta a fare il mitico Renzi, che viene dalla Leopolda. Lo sa che vuol dire in Toscana Leopolda? Che vuol dire? Passera. Se vabbè, passato, Luca, però adesso passera. Non è che dobbiamo andare a finire per forza lì, no, eh. No, no, no, ma lei ha citato Rocco Siffredi. Vabbè, allora e Luca, ce l'abbiamo in quel posto, i politici ce la mettono in quel posto, allora? No, no, allora andiamo avanti così. Io le volevo proporre come jingle dell'ultima puntata. Vabbè, così arrivederci, Miro da Trieste, Miro. Di pronto? Dimmi. Niente, ieri 16.30 partenza da Termini, ho visto che gli zingari si sono spostati da Firenze a Roma. Sì. Nessuna presenza delle Ferrovie dello Stato. Ma che è successo esattamente alla stazione? Cosa è successo? Bloccavano l'entrata nei vagoni. Ma come bloccavano l'entrata nei vagoni? Dove? In che momento? No. 16.30, partenza 16.34, un freccia bianca per Trieste. Ma che vuol dire bloccavano? Bloccavano che vuol dire? Quattro persone dinanzi alla porta, altre tre giovani in retrovia, diciamo, no? Quando mi sono presentato ho detto, ma che cazzo volete? Io capotreno. Allora io ho risposto, curat capotreno, non so se avete un'idea. Poi sono andato avanti con tutte le cose imparate nei Balcani, anche sono rimasti molto sorpresi e hanno tentato di aggirarmi. Poi invece, visto che io continuavo... Lo sa quanti soldi, il giro d'affari delle bande di zingari alla stazione Termini? Oggi ho letto una statistica. È di circa 800.000, un milione di euro. Questo è il giro d'affari con le mance che cercano di farsi dare, minacciando in alcuni casi, in altri rompendo i coglioni. All'entrata delle carrozze è la prima volta che vedo, e sono molto spesso là. Evidentemente sono gli stessi di Firenze che sono arrivati là. Comunque dopo sono andati via e dopodiché è arrivato il solito napoletano che vende le calze e mi sono sentito più sicuro. Vabbè, Miro, grazie. Questo è bravo. Ciao, okay. Ciao. We don't need no education. Senti Parenzo, tra un cocktail e l'altro ti comunico che cosa... Ma non sto a procedere su cocktail. No, ti spiego che cosa combina il nostro amico Gianluca Buonanno a Bruxelles. Praticamente ha fatto oggi un comunicato in cui prende le parti della Russia contro l'Ucraina, dicendo sostanzialmente, allegando un documento che mi sembra sia del Ministero della Difesa russo. E scrive: amici russi mi hanno segnalato il documento, le immagini satellitari che allego e la cui chiarezza interlocutoria è seconda solo alla malafede di certe mete internazionali. Gli unici sistemi missilistici antiaerei in zona erano ucraini. Come ucraino era il caccia militare che volava a 3 km dal volo Malaysia Airlines poi abbattuto. Buonanno contro l'Ucraina. Capito? Ma secondo te adesso un deputato eletto in Italia che dice ai microfoni della Zanzara, ma seriamente, che lui vuole essere l'uomo di Putin in Europa, perché questo da noi ha detto, dovresti fargli ascoltare questa immonda porcheria che lui ha detto, e adesso fa addirittura un documento, ma questo è pazzo! Ma questo qui veramente, allora, segue gli interessi di chi, signor Buonanno? Di chi rappresenta lì? Veramente i russi? Veramente rappresenta i russi? Stefano da Roma. Pronto. Dimmi. Volevo dire all'avido Parenzo, sì, che questa strategia di minacciare che lui non torna più, che se ne va, che è tutto finito. Ma non è una strategia. È una strategia, perché è evidente che vuoi solo strappare più soldi al prossimo contratto. È chiaro che a settembre vorrai più soldi. Sì, Stefano, parla più forte, però avvicina quel cazzo di bocca al coso. Quindi la smettesse di minacciare questa cosa. Io intanto, col tuo permesso, caro ascoltatore, faccio quello che mi pare. Primo. Secondo, siccome faccio quello che mi pare, dico anche quello che mi pare, avendone la possibilità. Quindi non è che telefoni tu, mi fai la lezioncina e io mi accuccio e Stefano, mi allora? Primo Pirla chiama e dice questa stupidaggine perché gli esce, perché deve dare fiato alle trombe. Stefano, non allora? Le trombe, perché non puoi lasciare tutto questo pubblico nell'incertezza che ci sarai o meno alla stagione prossima. Non ti preoccupare. Ha ragione lui in ogni caso, ha ragione lui. Dormiranno tutti. Luca da Torino non c'è più, Nicola da Bari, Nicola. Ne viva a Marra, innanzitutto ringrazio te Giuseppe per averlo invitato e intervistato. Chi? Marra, l'abbiamo sentito poco fa in un flash che è registrato vostro. Marra. Attendo quello che dici. Bravissimo. Allora io aggiungo che il governo Renzi... Ma quello è lo stesso di prima questo qua, non è lo stesso di prima. In tali cool. Ma lei è lo stesso l'Italia di prima, ha chiamato da un altro numero. Ma cosa dice? Cosa sta dicendo, scusi? Vabbè, allora... Porta l'Italia al macello il governo Renzi, non mi complica la vita, con l'intali cool porta l'Italia al macello e se non viene fermato l'Italia rischia di fare la fine della Palestina o di Pompei e Renzi lo sa. Per no, no, scusami, scusi, non ho capito, no, scusi un secondo solo perché è per capire, interessante, lei ha detto della rischia di fare la fine della Palestina o di Pompei? Sì, di Pompei. Renzo, ho capito bene? Sì, di Pompei. Parenzo. Non mi può spiegare perché di Pompei, visto che lì c'è stata una eruzione di un vulcano, mi può spiegare perché? Esatto, potrebbe arrivare a far quella fine... E Parenzo lo sa, nel momento che la gente si rende conto di ciò che l'aspetta, sangue e merda, lui sta predisponendo un regime, una dittatura nella stessa situazione, anzi che peggio di quanto è successo col nazismo partendo da Mussolini. Io credo che il tema delle malattie mentali sia un tema che prima o poi dovremo pressante, un tema pressante, sì, un tema credo pressante. Credo che vada affrontato prima o poi, malattie mentali gravi. E soprattutto le famiglie. Io penso alle famiglie di questo signore, ad esempio. Lei ha famiglia? Nicola? Parenzo, ladro disonesto. È lo stesso che ha chiamato da un altro. Parenzo, ladro disonesto, taci, non rubare il tempo alla mia telefonata. Ma tu capisci che questo qua ha chiamato 5 minuti dopo da un altro numero, con un altro nome? Che questo è un triplo colpo di Stato. Ma lei è malato di mente, si faccia curare. Lo fanno con 200 seggi che hanno rubato anche tramite soglie di sbarramento e premi di maggioranza. È vero o non è vero? Lei non può chiamare qui, se non per scopi terapeutici. Se le fa bene, che stanno legiferando con 200 seggi rubati che gli elettori hanno assegnato ad altri, ma non solo gli hanno tolti, ma per effetto algebrico gli hanno dato ai loro amici, gli hanno fatto sedere su quei seggi i loro amici che i voti non hanno preso. È vero o non è vero? Sarebbe comunque un colpo di Stato perché stanno cancellando la democrazia prevista dall'articolo numero 1, che l'articolo 139 dice che non deve essere oggetto di riforma costituzionale. Ne siete al corrente questo o no? Vi voglio benissimo, viva la topa! Come si fa a vivere senza la zanzara? Scusi. Io senza la zanzara non ce la posso fare. Cioè la zanzara è vita! Il mitico Danna, uno di quelli che non vogliono votare la riforma del Senato, Forza Italia, anche se poi appartiene al gruppo dei GAL, tutte queste puttanate che si inventano per fotterci un po' di soldi, contributi ai gruppi, eccetera, eccetera. Danna! Sentitelo. Io sono disponibile, se il ministro Boschi mi fa un sorriso, però, perché a me non dispiace, se devo essere chighiottinato, meglio che il boia abbia vesti così belle. Voglio dire, io sono disponibile a ritirare i miei emendamenti. Sapete che vogliono votare tutto entro l'8 agosto, no? La gente se ne fotte totalmente di queste cose qui. L'8 agosto la gente pensa al mare, non a tutta questa fretta assurda. Non si può parlare di dittatura, di pericolo di dittatura, però pure questa fretta è ridicola. Forse ha ragione il professor Becchi prima, te la dico tutta, Parenzo, quando diceva che alla fine Renzi vuole andare in Europa a dire vabbè, abbiamo fatto una cosa, qualsiasi cosa sia. No? Ma questo sicuramente allora, è così. Diciamola, diciamola. Scusami, questo sicuramente è così. Aspetta, fammi sentire ancora Danna.

amici miei, l'uomo che vede Emilio Fede ogni giorno, un uomo, un signore che vede Emilio Fede ogni giorno, si sveglia quasi con lui, fa colazione con lui, guarda il suo cane, lo saluta. Che cosa ha in testa quest'uomo, Guido Bagatta? Io o Emilio? No, Emilio, Emilio. No, Emilio è un tranquillo ormai personaggio della terza età che in giardino a Milano 2 ogni tanto passeggia per raggiungere la vettura che lo aspetta e lo incontro mentre io porto il cane e il cane abbaia Emilio Fede. E Margot, però, siccome Margot, cioè, è femmina, Margot abbaia ad Emilio Fede. Ecco, è mica l'inverso, cosa vuoi? Che Emilio Fede che abbaia anche lui ogni tanto. Ma Margot è maschio o è femmina? Femmina, Margot. Femmina. Adesso non cominciamo con il discorso di Dudu. Margot è femmina. E... no, perché adesso il cane di Guido Bagatta è femmina. È femmina, anche che, troppo femmina. Che in realtà il cane è di proprietà della fidanzata di Guido Bagatta. No, no, no, è intestato a Francesca. Possiamo fare annunci qua? No, non si possono fare annunci. Sì, certo. Beh, ma c'è un annuncio favoloso da fare, signori miei, qui alla Zanzara. L'annuncio del matrimonio di uno che non pensava mai di sposarsi. Mai. Mai, cioè non pensavo tu, Parenzo, questa è una storia straordinaria, una storia, lo dico io che è una storia straordinaria, non so chi è che ti ha chiamato? No, non lo so. Una cosa pazzesca. Cioè Guido Bagatta ha chiamato in diretta la Zanzara. No, chi no, è? Niente, niente. È la tua fidanzata? No, il mio socio. Il tuo socio, la cosa incredibile. Allora, diamo in diretta questo signor Guido Bagatta, noto telecronista, giornalista di sport e non solo, eccetera, eccetera, il quale si sposa con una ragazza molto più giovane di lui, bisogna dire. Però vabbè, questo è un dettaglio che bisogna dire. Contro chi? Contro, bravo, lo dico anch'io, contro Francesca di Venezia, del Lido di Venezia. È una quasi come te, Parenzo. Capito? Cioè, è veneta. Veneta e dice Witton al posto di Witton. Witton? Witton. Ma quanti anni hai a Putea? È a Putea. A Tosa? Abbiamo 30 di distacco, 30. 30 anni di distacco da tela. Hai capito, amico sì. Amico mio. Ti sei preso la canta giovane, amico mio, bravo. Eh beh, oh. Cioè, 30 vuol dire che tu quanti ne hai, scusa? Io 54, lei sta per raggiungermi a meno 30, fra poco 24. 24, cioè, 24 siamo, anni. Ma siamo al top assoluto, amici miei. Allora, matrimonio Guido Bagatta, meno 30, con una ragazza meno 30, Francesca, splendida ragazza, prodotto del vivaio veneziano. L'11 ottobre a Milano? No, no. Primavera a Milano, però io come avevo primavera? Una primavera. Ottobre, hai detto, ma no, l'11 ottobre. Ma hai detto l'11 vogliamo ottobre. Farlo al caldo, nel senso. In primavera. Vabbè, ciao Guido. Beh, tu scusami, quando è che scrivi Private Parts 2? Ragazzi, questo è Howard Stern, non è Cruciani, Howard Stern. Incarnato. Squalificato, squalificato da tutti. Come si fa a vivere senza la Zanzara? Scusi. Pordenone, Silvana da Pordenone. Sì, pronto? Vai Silvana, vai. Pronto, senti. Che è successo? La nostra è la campana a morte, come faremo senza di te? Come faremo senza di voi? Amica mia, amica mia, amica come si fa a vivere senza la Zanzara? Però almeno ridevamo insieme. Ti salutano anche mia figlia, ciao. Ma chi è? Ma e ragazzi, naturalmente, ma è... e naturalmente una mia amica ci ha fatto i cannoli siciliani in vostro onore. Ma dove siete? Scusate, dove siete? E noi abbiamo una piccola trattoria così, però. Ma dove tra esattamente? Un pasto e l'altro non può mancare la Zanzara e naturalmente i fancazzisti che ci ascoltano. Ma dove siete esattamente? In che località? Pordenone città? No, siamo vicino a Sacile. Vicino Sacile, ah, ma mi pigliate in giro voi per questa cosa, no, di Sacile. No, no, assolutamente, siamo nella più bella zona della provincia di Pordenone, va bene. Va bene, ti abbraccio, dai. Ragazzi, ma scusa, ma tornate. Scusami, scusami. Aspetta, un aspetta, secondo, lascia parlare la zona, la zona di Pordenone è quella della sciarpa blu. Sì, sì, sì. Ah, ok. Ma non sappiamo niente noi della sciarpa blu, noi siamo un gruppo di vintage un po' tardone che però ridiamo alla grande. Beh, ma le tardone sono ottime, eh? Cioè infatti il signore di prima si prende una di 30 anni di meno perché non capisce una mazza. Ah, vabbè, ciao ciao ciao, si va Gianluca, Roma. Gianluca, Ah, Crucià. Dimmi. Io sono frocio e so da Dio. Mamma mia, non puoi capire. Cioè, in che senso? Scusami. Ho scoperto un altro mondo. Cioè, ma non è vero, dico, con questa voce che hai, non è vero. Non ci credi. Ma no. Ah, bello. Guarda, ti dico una cosa, che sono convinto che converto il 50% degli ascoltatori. Avanti, sicuramente pubblico, sarà la solita pubblico battuta. Tanto siccome lo Stato ci è, allora è questa la battuta che vuoi fare, dimmelo. Sì, ma è vero che lo Stato ci incula. No, ma aspetta, non è la cosa normale. Perché quando ti incula... Io prima mi incazzavo tutti i giorni, mi svegliavo e dicevo, ma vaffanculo, potere a questo, potere a... Da quando provo piacere, sì, ma tu non puoi capire, mi sveglio e ogni volta che sento, riduciamo la pensione, godo con maiale, mi piace, quando ci dicono, adesso vedrai le tasse, mamma mia, non puoi capire, quanto mi piace, ho scoperto un altro mondo, cioè, ma se sta da Dio, ma allora la prima mi incazzavo come deficiente, mo godo come maiale, ma scusa, ma come mai? Mette? Perché godi come un maiale? Perché? Ma perché? Perché sono frocio, mi piace, mi inculano, io godo. E allora adesso, prima mi incazzavo e mo provo piacere. No, vabbè, ma non è vero, ci stai prendendo in giro, a te non ti piace. Ma non ti piace il pisello, dai, su, non ti piace. Ma il pisello statale, vedi, lo piamo ogni giorno, te lo dirà, ecco. Io un'altra. E poi alla fine a me piace e mi godo, basta, sto da Dio. La notte dormo, mi sveglio la mattina, è un bel ora da mettersi nel giornale, mi vedi, fammi sentire un po' oggi come posso godere. Mamma mia, Lucia, se sta da Dio, e lo consiglio a tutti, dammi retta. Ciao amico, ciao. Scatenato a Radio Padania contro il sottoscritto. Non ci sono i Cruzani che prenderà €1 milione, purtroppo sono soldi nostri perché li prende dal padrone di Confindustria che ci ciuccia 20-25 miliardi, non milioni, miliardi Confindustria al mese. Non Santoro, non la Gabanelli, nessuno si occupa di queste decisioni che mandano in libertà spacciatori di droga, ladri e violenti, criminali. Pellegrini, io ogni giorno mi occupo dei tuoi amati rom, anche a composizioni, diciamo, non come le tue, ma nemmeno troppo lontane dalle tue, dunque non mi rompere i coglioni. Ma quando chiude quella trasmissione lì? Mara, ma perché deve chiudere, scusa? No, per le vacanze si fermerà un po' la radio. Aspetta. Ti vergogni, hai sensi di colpa? Perché sei così vigliacchetto? Quando io ti invito, ti sfido, ti stimolo a un'operazione di trasparenza, Cruciani, trasparenza, la conosci questa parola? Quindi finisci la tergiversare e quando mi registri con Cosimo Cauciù, manda anche questo intervento, così gli ascoltatori sanno cosa ti chiede Radio Padania. E vedo che tu continui a ignorare. Che cosa dovrei ignorare? Non ho capito, ma che cosa vuoi da me? Il mio reddito, la mia dichiarazione dei redditi, ma te la do pure, sarà superiore a 200, non mi ricordo, superiore a 200.000, compreso tutto, 200, 250, 300, che ne so, 350 a seconda delle stagioni, dipende da quanto lavoro extra radio, da quante marchette faccio, così sei contento, dipende da quanto me lo faccio mettere in quel posto, da quanti lavori di prostituzione faccio, caro Pellegrini, dipende sempre da queste cose qua, più faccio prostituzione, più lecco il culo a qualcuno e più mi danno soldi, capito? Ovviamente non è vero, però magari ci casca. Pellegrini, pensa che il tuo padrone ci porta via 25-30 miliardi l'anno, pensa quante cose potremmo fare, si potrebbero fare con quei soldi, aiutare i disoccupati, aiutare anche i vostri amici migranti. Lo so che ti puzza, perché se portiamo via i soldini al tuo padrone, magari poi il tuo padrone non ti paga più sontuosi salari. E cosa succede? Che ti succede, Cruciani, che tu sulla soglia di 50 anni, perché l'età che hai, sei vicino ai 50, andresti a scoprire qualcosa che finora ti è sempre stato ignoto, il lavoro. Però credimi, lavorare è un'esperienza che va fatta, è un'esperienza istruttiva, non fa male, credimi, serve. Pronto? Senti, la nostra è una campana a morte, come faremo senza di te? Come faremo senza di voi? Franco da Latina. Franco? Sì, sono qua. E dai, forza, dai. Giuseppe, te posso dare la botta al culo, Giuseppe. Perché? Che è successo? Perché io sono disoccupato, no? E che vuoi da me? Non posso dare vacanza, no? Perché non mi hai presti qualche soldo, non vado in vacanza, pure io con te? Scusa, ma che è la cosa questa qua, che è la Caritas? Ho che... capito, ma ho capito, però porca santa pupa, cioè... Cioè tu c'hai i quadrini, no? Io ne tengo i quadrini, Giuseppe, mannaggia santa pupa, Giuseppe. Ma scusami, Parenzo, ne vogliamo parlare, no, della gente, no, che chiama, ragione. Scusa. Ha ragione, ho capito. Ma devo mandare l'ambulanza, mette l'ambulanza. Oh Giuseppe, se mi porti l'ambulanza, almeno mi porta. Almeno mi mangia, mannaggia santa pupa, no. Ma che è questo mannaggia santa? Io non ho mai sentito questa espressione. Ma a parte che non è vero, perché stai. Da piperno. Sì, ma hai chiamato col cellulare, dunque qualcosa guadagni, no, per avere un cellulare? Ma che guadagni? Me l'hanno regalato il cellulare, 800, niente, paga gli 800. Vabbè, Franco, ma che vuoi da me? I soldi per andare? Ma che vuoi? I soldi per andare in vacanza? Che vuoi? No, perché voglio, almeno 100 euro, mi puoi mandare 100 euro. No, non ce l'ho 100 euro adesso dietro. Ma dove? Hai detto che guadagni 300.000 euro l'anno, che porta. Ma non ce l'ho dietro. Dai. Ma come ti rimando poi? Carina. Ma io non do soldi, ma ti pare che do i soldi a questo disgraziato che chiama? Ma sei un disgraziato, sei un disgraziato. Vai a cercare lavoro, vai a cercare lavoro invece di rompere i coglioni alla radio. Io lavoro, faccio il giardiniere. Ma il giardiniere va bene, è un lavoro dignitoso. Ma fai una cosa, fai un po' di lavoro. Oggi lavoro, ho 3 giorni di lavoro. Fammi fare io voglio ir a zona Roma. Beh, ho capito, ma io non sono a Roma, tanto sono a Milano, come ti rifaccio? Ho capito, però perché io per togliere i treni, le cose in altra, ci vuole i quadrini, ne tengo, perché non mi puoi mandare 100 euro? No, ma non te li posso mandare 100 euro, come faccio ma a mandare? Ma fanno un'opera buona una volta nella vita, no, almeno una volta, aiuta il mio cristiano che non ce la fa, no. Ciao amico, t'abbraccio. Ma come? Mi mandi a fanculo, eh? Per forza, che devo fare? Fanculo no, però ti accompagno alla porta in modo dolce, gentile, abbracciandoti. Vai in vacanza pure tu, dai. Ciao. Lucia, attenta a quello che dici, perché la... Fermi tutti, che succede? Ma io non ci posso credere, Parenzo, non ci posso credere, perché cosa è un evento eccezionale, è un evento eccezionale, un evento irripetibile, direi irripetibile. Cioè praticamente non va in nessuna trasmissione, non risponde a nessuno, non risponde ai messaggi, non si fa trovare, è impegnato nella riforma del Senato, ha cambiato registro, ha cambiato tono. Mimmo! Buonasera, come state? Come stai, caro Mimmo? Domenico Scilipoti, senatore di Forza Italia. Mimmo, ma quanto tempo? È da molto che non ci eravamo sentiti, ci stiamo sentendo, dimmi. Ma come stai, innanzitutto? Bene. Ti vedo battagliero, in forma, però sempre con un po' di... con un velo, questo te lo sto dicendo senza ironia, con un velo di tristezza ogni tanto. Cioè come se ti fosse, come dire, la carica che avevi una volta, no, questo spirito da battaglia che avevi quando ci siamo conosciuti, eccetera, in quella fantastica foto che raffigura me e Parenzo che ti baciamo, eccetera. Come se fosse scomparsa questa carica, non so perché. Ti vedo veramente ogni tanto un po' triste, ma triste in faccia, o sbaglio? No, non sono triste, mi ricordo sempre di voi con grande affetto e con grande stima. Però no, ma triste in generale, no, guarda, non per noi, sto dicendo per così, ti vedo sempre un po' quando ti avvicina un giornalista. Ecco, quando ti avvicina un giornalista, sei sempre un po' sulle tue, sei sempre un po' sulle difensive, o no? No, completamente no, dico ciò che penso, quando mi fanno le domande cerco di dare delle risposte. Sì, vabbè, Parenzo, che c'è? Che gli vuoi dire a Scilipoti? No, perché qui c'ho al mio fianco Nutti che mi dice che Scilipoti è veramente una brutta persona. Perché? Come una brutta persona? Ha detto. No, ma come fa? Ma non lo conosce. È meglio Razzi, dai, a me fa parodia. Scilipoti, veramente, io sono allibito. Beh, da che cosa sei allibito? Scusa, caro Nuzzi. Ma che ha fatto nella vita questo? No, ma come che ha fatto nella vita? Scusa, il medico. No, dopo, in politica. In politica ha fatto il senatore, adesso fa il senatore, prima faceva il deputato. E chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Scilipoti, vuole rispondere al signor Nuzzi, che è, come dire, conduttore di successo? Sono un lettore. Un lettore, ma nonché anche un ascoltatore, un lettore, conduttore anche di successo della televisione che si chiama Mediaset. Vuole rispondere, che dice non, nessuno si ricorda quello che lei fa. No, non devo rispondere, sto ascoltando. Sto aspettando che mi fate qualche domanda per darvi qualche risposta. Io aspettavo un disegno di legge importante per la sua terra, più che altro, più che per la mia. Vabbè, ti ripasso David. Addio. Grazie, sì, grazie Luzzi. Dice che aspettavo un disegno di legge. Senta Scilipoti, ma che cosa ha detto l'altro giorno a Casini, che era incazzato, Mimmo, come una bestia, quando eri lì sulla... No, non ho detto niente, ho detto che il dibattito all'interno del Parlamento non va soffocato. Che il dibattito non va soffocato all'interno del Parlamento? Ma veramente è Berlusconi che vuole soffocare il dibattito insieme a Renzi? Guarda, non è vero, le riforme vanno fatte prima possibile, condivise, cioè, da tutti i gruppi parlamentari. Vabbè, d'accordo, questa però adesso non è che siamo alle risposte così standard, Mimmo, sennò altrimenti se uno deve dare le risposte vanno fatte insieme a tutti i gruppi parlamentari, questa è la risposta, pure mia figlia me la poteva dare. Figlia intelligente ti darebbe una risposta intelligente. Sì, solo che ha 9 anni mia figlia, questo perché è il punto. Vuol dire che è intelligente come il padre, perché il padre era già intelligente a 7 anni. No, io no, non a 7 anni ero un cretino, giustamente, come è normale che sia. Vuol dire che mi hanno riferito non in modo corretto. No, però Mimmo, io voglio capire una... rettificando dicendo che eri un cretino a 7 anni. Però scusami Mimmo, io vorrei capire una cosa, tu hai intenzione di votare questa riforma del Senato? Perché io so che tu a un certo punto eri contrario a votare la riforma del Senato, cioè l'abolizione del Senato elettivo. Oggi che cosa pensa Mimmo Scilipoti? Perché Renzi continua a citarti, tra l'altro, Renzi continua a dire io non faccio, no, non figuriamoci. Ma ci può interessare, con tutto il bene che gli vogliamo, ci può interessare qualcosa di cosa pensa? Beh, importante. Mimmo Scilipoti. Tra un po' pur ci dimenticheremo no, anche di lui. No, però scusami, perché lo devi trattare così? Renzi... No, non lo tratto con affetto, dicendo che è finita. Com'è chiusa? Ma perché oggi devi dire finita? Quello fa il senatore, perché devi dire è finita? Perché è finita, si è chiusa un'epoca. No, scusa, aspetta, Mimmo, scusa un attimo, Renzi ha detto le minaccine di Scilipoti non mi fanno paura, questo credo l'abbia detto ieri. Ma guarda, io non ho minacciato nessuno, ho grande stima del Presidente del Consiglio, come ho avuto sempre in passato stima dei Presidenti del Consiglio, perché rappresentano gli italiani. Poi? Molte volte non siamo d'accordo o non condivido il suo pensiero dal punto di vista politico. Io ritengo che le riforme vanno fatte prima possibile, condivise da parte di tutti per dare... Ma condivise da parte di tutti che questo paese che si chiama Italia. Ma condivise di tutti, ma ci sarà qualcuno che non è d'accordo, ad esempio 5 Stelle non sono d'accordo, ma tu è giusto votare entro l'8 agosto? No, o c'è troppa fretta? Silenzio. È giusto votare entro l'8 agosto? È una cosa troppo. Ma noi potremmo votare anche entro il 2 o il 3 di agosto. Vabbè, entro l'8. Trovare le convergenze, cioè dire i parlamentari convergenze parallele. Tanti emendamenti li stanno ponendo all'attenzione di tutti i parlamentari, governo, del Presidente del Consiglio, sperando che qualche emendamento si possa essere accettato per migliorare questa riforma costituzionale, che dovrebbe essere la riforma nostra ma anche quella dei nostri figli. E dunque? È troppo presto, l'8 agosto, bisogna aspettare. No, ho detto che noi lo potremmo votare anche entro il 2 agosto. Vabbè, ma certo, si può anche domani mattina, che c'entra? È opportuno da parte del Presidente del Consiglio chiamare o convocare i capigruppo al Senato discutere assieme e trovare delle soluzioni prima possibile. La condividiamo. Ma questa è la supercazzola. Ma questa qua è una risposta da supercazzola. Le convergenze parallele, il Presidente del Consiglio. Guarda, io questo linguaggio non riesco a capirlo. No, ma non è il linguaggio, la supercazzola. A continuare a parlare così, dico continua tu tranquillamente perché no, non ma sono interessante. È la super... una buona serata. No, Terenzo, aspetta. Sono veramente contento di avervi sentito. No. E vi do un grande abbraccio e spero e faccio gli auguri a Renzi che possa portare a compimento prima possibile questa riforma. Ma le due rotture di coglioni incredibile, traffico e borsa, dovreste ammazzarle. Cose incredibili che si sentono in giro. Giarrusso, l'amico Giarrusso 5 Stelle, rischio dittature come Mussolini e Hitler. We'll be right back. concentramento dei poteri, una concentrazione dei poteri legislativo e il controllo sul potere giudiziario, tutto sull'esecutivo. Allora, siccome questo avviene soltanto nelle dittature, questo nel Novecento ha dovuto Hitler, che ha dato avanti per decreto, e Mussolini. Leone, nuovo centrodestra, tenete bene a mente questi nomi, La Camera, si sta parlando degli stipendi dei dipendenti della Camera, una delle più grandi vergogne italiane mai cambiate da nessuno, tutti supini, tutti appecoronati a questa cosa. Adesso devo dire la verità, la Boldrini ci sta anche provando, ci sta anche provando a cambiare questo andazzo. Però alcuni gruppi parlamentari si oppongono a questa vergogna degli stipendi della Camera e del Senato, che sono esorbitanti rispetto alla media dei dipendenti pubblici, e loro non ci stanno nemmeno al tetto di 240.000. Oggi c'è gente che guadagna fino a 400-500.000, eccetera. Leone, la Camera funziona meglio della Svizzera, funziona meglio della Svizzera, amici miei. Io quando sono arrivato alla Camera avevo il dubbio che la Camera fosse un'amministrazione normale, e non voglio parlare male delle altre amministrazioni. Un'amministrazione normale significa con i tempi normali dell'amministrazione. Io sono rimasto allibito dal fatto di aver scoperto una istituzione che funziona meglio di quelle della Svizzera, per dire, che siccome si fa sempre il paragone con la Svizzera. Senza orario, con una velocità che fa spavento, con una professionalità. Ora, può darsi pure che sia così, che alla Camera tutto funziona perfettamente. Beh, te credo, con quello che costa, ci mancherebbe pure che costa poco. Non è quello il punto, però, non è quello. È che, ripeto, trovo incredibile che un dipendente della Camera debba guadagnare di più di un dipendente del Comune di Roma o di Milano. Trovo incredibile che i sindacati interni della Camera dei Deputati, i sindacati, quelli che dovrebbero difendere i lavoratori, però per me i lavoratori sono quelli deboli, a proposito, aspetta, dimmi. No, che i sindacati si mettano a difendere questi qui, che sicuramente non sono lavoratori normali. Chi guadagna 300.000 euro non ha diritto di avere il sindacato, secondo me, non dovrebbe neanche iscriversi al sindacato. Roberto dalla provincia di Modena. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vai. Guardi, ciao caro, ciao. Salve, io volevo soltanto porre l'attenzione a una cosa. Nella categoria dei camionisti esisteranno gay come in tutte le categorie. Passando in un luogo doganale, io sono stato fermato da un camionista. E io l'ho ringraziato dell'apprezzamento e poi sono andato a casa. Cioè, non ho capito, che è successo? Che è successo esattamente? I camionisti avranno ben diritto di divertirsi. Se uno non vuole il disturbo, come qualcuno sostiene, ma che mettessero un bel cartello, ne parlavo proprio ieri sera con questo camionista, si mette un bel cartello, no gay, grazie, e questi non li chiamano. Però se si ferma il trans o la mignotta, ben venga, e fanno bene, perché lavorano tutto il giorno per la strada, figuriamoci se non si devono divertire, ma che la finiscano di stressare. Cioè, lei dice stanno esagerando accusando i gay di andarli a pizzicare nelle piazzole. Perché da che mondo è mondo, dove ci sono i camionisti, si creano questi giri di prostituzione femminile, transgender, chiamiamola. E perché, scusi, perché? Non ho capito. Come perché? Perché da sempre così, se uno gira per il mondo, è come nelle città di porto, dove c'è un porto. Cioè, lei dice una persona che fa una vita itinerante, alla fine si crea intorno a questo mestiere una. Ma non è che lo fa lui di sua volontà, ma è così che accade la realtà. È come se lei pianta un seme e poi crescerà una pianta. Cioè, scusi, Roberto, ma lei ci sta dicendo che esiste, questo è interessante, i camionisti gay? Eh beh, certo, come in tutte le categorie, perché secondo lei quelli che accolgono sulle loro cabine o che vanno... Ma quelli magari lo fanno per denaro, no? Guadagnano la 100 euro facendosi fare un lavoretto di qualsiasi tipo, o facendolo. Comunque devi comunque stare assieme a un... Ho capito, mica è necessario per forza essere omosessuali, magari non lo sono e... Io credo che se uno ha un atto omosessuale, in quel momento lo è, poi dopo se... Ma no, ma uno lo può fare anche delle marchette senza essere frocio, dai, su. Guardi, condivido che può esserci anche la sua possibilità, ma io credo che esista anche quello che sto dicendo io, perché d'altra parte ieri sera questa era una persona squisita, quindi... Cioè, questo camionista le ha detto io sono gay, e ci ha provato, e no, ci ha provato. Me lo ha fatto capire invitandomi a salire in cabina da lui. Io ero nel ma scusi, dove ha incontrato questo gentile signore che l'ha invitata a salire dentro la cabina? In una piazzola, in un'area di servizio? In un'area doganale dove c'è un pubblico esercizio, dove mi sono fermato per prendere le sigarette. Sì. Tutto questo è successo quando sono arrivato fuori, quando sono uscito, e ci sono camion parcheggiati ovunque. Allora capisce che c'è una discriminazione solo per il fatto che ci sono poche persone che alzano molto la voce, mentre tutti gli altri che lo fanno in silenzio e se fanno i cavoli loro non dicono niente, e questi quattro che alzano la voce sono i soliti che fanno confusione. Ma le assicuro che è un piacere ricevere un complimento. Io l'ho ringraziata questa persona, perché come se mi fosse stato detto: lei è un bell'uomo. Beh, adesso non esagerare, no, non se la tiri troppo, semplicemente quello, cioè, quello voleva, insomma, gli voleva mettere le mani addosso, le voleva toccare il pacco, le voleva toccare il pisello, insomma, diciamo. Si è messo davanti la cabina, si è abbassato i pantaloni, e si è ficcato il rito nel c***o, hai capito? Capito che succede, Roberto? Però non è stata così. Beh, invece hai incontrato uno gentile, hai incontrato uno che ha detto: ma scusi, ma mi spieghi un attimo la conversazione come è avvenuta? Beh, perché aspetta, che qui c'è un grande personaggio che devi riconoscere dalla voce. Oddio mio, ma io quando fa queste cose non ne posso più, guarda, non ne posso più quando fa queste dobbiamo cose. Dobbiamo combinare l'alto e il basso. Ah, signor Pardo, aspetta un attimo, aspetta. Lo sai che prima mi sono sbagliato? C'è Guido Bagatta che ha annunciato in diretta il suo matrimonio. E io ho confuso le date e ho detto altre date, ma lasciamo perdere. Andrea da Udine, senti Andrea da Udine. Al telefono Pierluigi Pardo, conduttore Mediaset, nonché co-conduttore di tutti i convocati. Allora, Andrea, vai. Buonasera Giuseppe, buonasera. Dimmi, Davide, guarda, t'ho pizzicato il volo. Buonasera, non ce ne buonasera, non ce ne frega niente a noi di buonasera, dai, su, mica stiamo tutti convocati qui. Io ti volevo suggerire giusto di prendere Pardo al posto di Parenzo a settembre, visto che vuole andare via, che siete fantastici quando siete insieme. E guarda caso risponde Pardo. E io per questo. Uno, veramente. Parenzo che c'ha è troppo progressista. Come, perché io ho queste idee, ma posso tranquillamente cambiare anche delle altre. Andrea, come mi vuoi? Progressista, mi vuoi reazionario? Pierluigi, tu vai bene come sei un grande, mi fai morire soprattutto quando chiami il signor Cruciani. Il signor Cruciani, ti aspettiamo qui apposta, perché è tutti un uomo là. Che insomma sì, tutti qua però noi che cosa vorremmo a Ponza, diciamola tutta, diciamo, adesso la possiamo dire noi, l'unica cosa che ci interessa avere a Ponza è una sola, cioè abbiamo solo una cosa che vogliamo fare: esplodere definitivamente l'isola di Ponza e tutte le isole italiane. Facciamo qua un annuncio urbi et orbi, vai, un dibattito serio fra due nostre amiche, esatto, sì. diciamola tutta perché... vai, dillo tu però. A questo punto, dillo tu con la mia Cruciani, se... tra l'altro posso dire vicinissimo alla conduzione di Ballarò. Ma non è vero, non dire cazzate, non è vero. È una gag. Dai, dimmi che cosa, l'unica cosa che noi vogliamo. Attenzione, un momento garramba, perché direttamente dal palinsesto della mattina c'è il signor Milan. Tutti insieme, ma siete vergognosi. Giuseppe, ma la gente lavora per strada, la gente sta lavorando a Milano. La gente si sta facendo un mazzo così. Ci sono camionisti, gente incazzata, persone avvelenate, e voi state lì a Ponza a non fare una mazza. Allora, questo è il mio primo giorno in vacanza. Adesso posso dire, il mio primo giorno. Dai, in vacanza. Però chiudiamo questo siparietto vergognoso con una cosa. Barra Lucarelli, fate pace. Francesca Barra, Selvaggia Lucarelli. Non fate pace, vogliamo lo scontro nel fango noi. La guerra vogliamo. Allora, ma certo. Fate la guerra, fate come vi pare, la lotta nel fango, che ne so, the cat women, fate un po' come vi pare. Ciao ragazzo. Non è una buona idea. Boh, ti rimasto Parenzo, You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Nella prima puntata dell'anno prossimo Parenzo, è vero, non ci sarà, ma sarà collegato da un tir in giro per l'Italia a caccia dei gay che vogliono abbordare i camionisti. Prima puntata dell'anno prossimo. Viva i frasi! Stefano da Prato. È vero, però forse non ci sarò più veramente. Ma non rompere i coglioni. Dobbiamo dire così, è finita, eh. Dai, chiudiamo un'epoca, un'esperienza. Diciamo, poi sentiamo gli ascoltatori cosa dicono in questo mese. Ma no, ma queste cose qui, finché sono uno scherzo, va bene. Ma no, da qui all'8 settembre. Ma diciamo che diciamo l'annuncio definitivo, ci lasciamo. Ma non è vero, Stefano da Prato. Ma chi ci ascolta, scusa. Ma smettila, dai, non dire cazzate. È una grande esperienza, 4 anni bellissimi. Stefano da Prato, dai, non rompere i coglioni. Abbiamo fatto cascare governi, abbiamo fatto cascare assessori, ministri, abbiamo incastrato, scoperto colpi di Stato, abbiamo fatto delle grandi cose in questi 4 anni, ma è finita. Ma dove? Ma quando mai? Stefano, non scherzare su queste cose, dai Stefano. È finita, bisogna avere il coraggio di dire finita, è come una storia d'amore, quando finisce, finisce, va detto chiaramente, è finita, vabbè. Dai, io ringrazio veramente la radio, la Confindustria, il nostro direttore prima, il signor Tamburino. Marco da Milano, ma smettila su, Marco da Milano. Ringrazio Barisoni, ringrazio te. Senti, ringrazio queste cose qui, sono, bisogna farle bene, non in questo modo ridicolo. Marco, no, da Milano, ma è Marco da Milano, vero. Marco da Milano, non vanno fatte infatti in questo modo così banale, ridicolo, dai Marco. Ma è banale, ma quale saluto, ma smettila Marco, dai. E niente, volevo spezzare un'avancia a favore dei rumeni che sono tanto criticati. Sì. E mentre gli italiani. Senta, però adesso scusi, abbia pazienza. Sono le 20:33 dell'ultima puntata dell'anno, non ci può rompere i coglioni con i rumeni. No, ma ascolta, ma se non mi lascia finire il discorso. Ma non le lascio. Vabbè, arrivi. Dammi un secondo, ti spiego. Dimmi. Mentre gli italiani si vanno a godere le ferie, per loro inizia il lavoro duro. E vabbè. Appartamenti, cantine. In questo senso. Quindi una lancia a favore loro, che inizia un mese mentre gli italiani si godono le ferie meritate, e loro hanno un lavoro duro, appartamenti, post, cantine, rovinare famiglia, insomma, tutto lì. Cioè lei dice che mentre gli italiani vanno in ferie, loro iniziano a lavorare, bisogna spezzare. Loro inizia il lavoro duro, soprattutto notturno, perché non dimentichiamoci che loro lavorano la notte, quindi lo stipendio deve essere doppio, no? E poi un'altra cosa, in Viale Monza c'è la fontana dell'acqua che le eroga gratuita a tutti i rumeni del Viale Monza a Milano, di non sfasciare i box a portare via le acque, perché cioè, i box sono elettronici, ogni volta che aprono i box che li sfasciano sono fottoni. E li hanno visti con le telecamere addirittura a portare via le bottiglie, qua è pieno. Ma di tanto a quelli che gli frega. E ho capito, a me quando la mattina vado in bosco e devo prendere la macchina per fare i cazzi miei, mi trovo il bosco tutte le mattine rotte perché hanno portato via l'acqua, cazzo, ma portami via lo stereo, la bicicletta, portami via roba di valore, cazzo, mi porti via l'acqua. C'è acqua da tutte le parti, ma la porti via, ci sono le fontane ogni 100 metri, cazzo, dai. Ma questi si attaccano pure all'acqua. Danila, provincia di Alessandria. Sì, buonasera. Dimmi. Volevo riallacciarmi al discorso che faceva ieri sera Parenzo, che bisogna sedersi un po' dalla parte di quelli che hanno torti, non da quelli che hanno ragione. Mi riferisco ai Rom, il discorso Rom. Io chiedo a Parenzo una cosa, ma lui si è mai seduto in uno di quei quartieri dove i Rom hanno praticamente l'egemonia di questi quartieri popolari? Non si è mai seduto lì a vedere quando fanno i loro bisogni, quando fanno la pipì, la pupù, che dormono in strada, che dormono nei giardini? Ci ha mai portato i suoi figli lì? Ma non credo che abbia mai frequentato. Non ha mai frequentato una. È comodo dire statici, vogliate bene a questa gente, ma vogliate bene, non vogliamo bene. Bisogna anche un po' di conviverci assieme, vedere se ci si riesce. Parenzo? Signor Parenzo, cosa dice? Il signor Parenzo dice che per 10 anni, quando è stato a Milano... Bravo, io parlo proprio, io sono dalla provincia di Milano, scusi se la interrompo. Interrompo perché non vuole ascoltare. Ci mancherebbe. Io ho vissuto 10 anni a Milano e sa dove abitavo, non a Via della Spiga dove abita Giuseppe Cruciani, ma io ho abitato per 10 anni in Viale Monza, per l'esattezza il numero civico 43. Viale Monza, Viale Padova, se lei conosce, negli anni in cui quelle zone stavano diventando quello che oggi sono e quello di cui hanno scritto i giornali di Milano. Cioè io ho vissuto in cui non c'è un negozio italiano neanche a pagar loro. Io ho vissuto per anni in Viale Monza al numero 43, i miei 10 anni milanesi sono stati lì, non in centro, ha capito? Ho capito. Ma forse allora, non mi deve rompere i coglioni. No, io non voglio romperli, io le ho solo fatto una domanda. Non le voglio rompere i coglioni. Come lei e gli altri Soloni, siccome lei con gli altri Soloni che ogni tanto chiamano dicendo lei non ne ha mai visto uno, io ripeto, oltre ad aver fatto servizi ed essere stato per dei giorni in alcuni campi rom sia a Roma che a Milano vivevo in un quartiere che sicuramente non era un quartiere, non era i Parioli, non era un quartiere, non era via della Spiga, non era via Monte Napoleone, era un quartiere di periferia che è viale Monza, amica mia. Vabbè, allora Danila? Volevo solo chiedere, non ci ha mai portato i suoi figli, detto che lui certo, ha i bambini, ce ne porta? Certo. Io sono in un quartiere Giambellino, non solo adesso hanno preso l'egemonia delle strade. Ti sta raccontando un fatto, ti sta raccontando una cosa, non è che ti sta dicendo. No, siccome mi chiama come per dirmi lei non vive... Beh, sei il difensore, no, il difensore della... Io non sono la razzista e dopo le dico anche perché. Io chiedo solo, a me, io non rompo le scatole, però forse lei si fa troppo rompere le scatole da quelli che, e non vuole neanche sentire la voce di quelli che un po' protestano. Ma io voglio sentire la voce di tutti, sono uno che non si offende mai. A conviverci, perché guardi, anche un'altra cosa, ci insegnano le buone maniere, ci insegnano il senso civico, ci insegnano la pattumiera differenziata, ci insegnano tante cose. E poi dopo quello che impariamo va tutto buttato lì in mezzo alla strada, perché questa gente qui non ne vuole sapere di imparare anche il senso civico. Faranno dei disadattati. Ho capito tutto Danila, grazie. Ormai è tutto degradato. Cosmo, provincia di Milano, ma non mi dire che è il solito coglione questo qua, Cosmo. Cosmo, dai, smettila, ma quanti telefoni hai? Ma smettila con questa buffonata. Guarda che quella di prima era la stessa persona, è chiamata due volte, non è la prima volta che lo fa. Allora ribadisco che tu, Cruciani, non sei un leccaculo, perché tu sei il culo. Ribadisco che la folla è gay e gli piace prenderlo nel culo. Vabbè, senta, quindi, Cosmo, adesso io la casso, la mando a casa, la faccio venire qualcuno, perché lei è malato, è ufficialmente malato di mente. Ufficialmente malato di mente. Emanuele da Napoli. Marco da Bari. Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Innanzitutto volevo fare un'invocazione al sommo Riccardo da Roma, dato che l'ultima puntata magari un intervento. Poi volevo farvi una domanda, dato i nascenti conflitti in Ucraina con Russia e in America che... Senta, sono... ma lei è in grado di parlare, di fare un intervento oppure no? Perché se non è in grado chiudiamo subito sta telefonata. Guardi, ho appena finito una bottiglia di 1,5 litri di Primitivo di Manduria. Ah, ecco, il motivo c'è. C'è sempre un motivo, benissimo. A noi delle sue analisi di politica internazionale non ce ne può fregare di meno. Manco a me, bravi, allora... e continuate così. Buone vacanze. Ciao Marco. We don't need no education. We don't need no thought control. Sì, di prima che mi dimentico, ve lo dico da amico a tutti, buone vacanze a tutta la redazione di Radio 24. Allora, Toscani, l'abbiamo già detto ieri, è stato denunciato per questi motivi, per alcune frasi dette sul Vaticano, frasi qui alla Zanzara. Sentiamo, Pensa di essere un marziano, cioè un extraterrestre, sì, che atterri, diciamo, in Italia, sì, e entri in una bellissima chiesa cattolica, sì, non sai niente di quello che è delle condizioni. Sì, dunque? Entri, vedi, uno attaccato, inchiodato a una croce, beh, vabbè, che sanguina. Sì, no, poi, un altare, sì, un altare con dei bambini nudi che volano, vedi quell'altro sanguinante perché gli hanno costato San Bernardo, ha tolto la pelle, sai, ce n'è di tutti i gusti. Allora? Io credo che un club sadomaso non sia così all'avanguardia. Ma non si può dire una roba simile! Ma non si può, sì! Ma scusa, io sono entrato! Hanno denunciato Toscani. Gianfranco Amato, presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita, buonasera. Buonasera. Perché avete denunciato Toscani, amico mio? Ma ci sono tante denunce in tribunale, cioè pieno di denunce in tribunale. Ci vuole pure questa denuncia qua. Qual è l'articolo di legge che avrebbe violato Toscani con questa sua raffigurazione del Cristo, del crocefisso? Quale articolo di legge avrebbe violato, Amato? Esiste oggi in Italia un reato che si chiama offesa a una confessione religiosa, tra l'altro qualunque confessione religiosa. Bene, aboliamolo, aboliamolo. No, la cosa singolare, no, semmai un'altra, è che sembra che in Italia sia questo reato sia applicato per tutte le confessioni, la religione ebraica, l'Islam, gli Hindu, persino i buddisti, tranne che per i cristiani. Questo diventa veramente singolare. Ma il punto è, esiste un minimo di rispetto per chi ha una fede, sì o no? Questo, ma ho capito, ma qual è il punto? Detto, cioè il fatto che lui ha detto che è un simbolo pornografico, no, qual, no, è? Guarda, qual è allora, l'offesa? Qual è l'offesa? Spieghi. Domanda. Si può criticare la posizione di Wojtyła sulla contraccezione? Certo, si può, anche vivamente, ma perché arrivare a dire che Papa Giovanni Paolo II è stato un assassino? Ma quello casomai si arrabbia Papa, ma casomai si arrabbia quell'altro, che voi che c'entrate, no, i giuristi per la vita, a parte perché esistono i giuristi per la vita? Potrebbero esserci anche i giuristi per la morte. No, ci sono i giuristi per la morte. No, ma come no? No, ho capito, ma perché uno dei giuristi per la vita? Come se ci fossero quelli per la morte, non ci sono quelli per la morte. Siccome, certo che ci sono, siccome lei ha detto che non capisce, sì, non capisce questa storia dei giuristi per la vita, così la chiariamo una volta per tutte. Perché lei dice siamo tutti per la vita. Sì, ma in che mondo vive il Monte dei Balocchi? Noi ci chiamiamo giuristi per la vita perché ci contrapponiamo ai giuristi per la morte. E quali sarebbero, per esempio, i giuristi per la vita? Mi dica un giurista per la morte. Quelli che si battono per l'aborto, l'eutanasia. Ah, chi è a favore dell'aborto? Chi è a favore dell'aborto è un giurista, è per la morte. L'eutanasia è la dolce morte. No, ma lasci perdere l'eutanasia, che è una cosa estrema ed è discussa. L'aborto ormai è accettato. Secondo lei chi vuole l'aborto vuole la morte. E l'aborto che cos'è? È un assassino. Chi abortisce è un assassino. L'aborto è la suppressione di un essere vivente. E dunque, secondo lei, una donna che fa un aborto è un'assassina? Uccide un essere vivente, certo. È un assassino, lo dica apertamente, abbia il coraggio di dirlo, Amato. Io lo dico apertamente. Però se lei mi dimostra, Cruciani, che un giurista che si batte per l'eutanasia è un giurista per la vita, le offre una ma cena. Ma no, ma non è questo. Ma il oppure, problema è molto semplice. Ma negli Stati Uniti, lei mi ha fatto la domanda, chi sono i giuristi per la morte? Io le rispondo. Sai, negli Stati Uniti ci sono fior di giuristi, anche molto autorevoli, che si battono per la pena di morte e hanno delle argomentazioni giuridiche molto forti. Ci sono degli stati in America che applicano la pena di morte. Ma lei è a favore della pena di morte? Lei è a favore della pena di morte? Guardi, caro il mio giurista per la vita, caro il mio giurista per la vita, se lo faccia dire in chiusura di trasmissione, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari. E militari, ma sta dicendo una stronzata mega galattica, perché la vita la si tutela tutelando il diritto di quelle persone che ad esempio vogliono abortire perché non si sentono pronte per mettere al mondo un bambino. Quella è il diritto che viene tutelato. Quindi lei adesso non allora fermi tutti un attimo, ragazzi, che facciamo? O mandiamo un piccolo best of oppure continuiamo in diretta fino a 58. No, perché io sono sotto la doccia. Non me ne frega niente, ma no, per questo motivo allora è sicuro che continuiamo. Questo è, detto questo, continuiamo fino a 58. Continuiamo fino a 58, non me ne frega niente. Ma hai detto questo, che sei sotto la doccia? La scommessa vale anche per Parenzo. Continuiamo. La scommessa vale anche per Parenzo. Se mi convince che i giuristi che si battono per l'eutanasia, la pena di morte, sono per la vita, io... Vabbè, ma scusi, non ho capito, ma Toscani cosa ha fatto? Toscani cosa ha fatto di male? Ma poi mi meraviglio di Parenzo, perché lui dovrebbe essere... Ora capisco che lei è un ateo, miscredente, libertario, ma lui... Se io... Facciamo questo esempio. Se io parlassi... Ma io che cosa sono? Miscredente? Ma non sono miscredente, Amato! No, era una battuta, Cruciani, dai. Ma lei è favorevole, per esempio, anche al fatto che quella signora, quella professoressa, sia stata cacciata da una scuola cattolica perché è lesbica? Lo prevede la legge. Ma come lo prevede la legge, Amato? Quella deve essere giudicata perché insegna, non perché è lesbica. No, amici cari. Come perché no, amici cari? Amici cari, un cazzo! La Corte Costituzionale, fin dal 1972, e con una pronuncia, un orientamento che è stato ribadito anche nel 2011 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha detto che nelle scuole private si scelgono gli insegnanti in base alla personalità. Cioè è giusto che una scuola cattolica possa scegliere se, chiedendo tu sei lesbica, tu sei froscio, tu lo pigli in culo, tu lecchi la figa, dai, no, su. Non è successo questo, no questo come non no? È, praticamente è successo questo, adesso io lo sto dicendo, caro, in maniera molto cruda, ma è successo questo, come no? No, perché se lei era lesbica e teneva il suo orientamento per i fatti suoi non succedeva niente. Ma lo sa che lei è uno scandalo? Ma perché uno dovrebbe... a parte che cosa ha fatto? Non ha mica detto ai 420 che è lesbica, si sarà fatta... No, lei ha fatto dei discorsi sull'orientamento sessuale che hanno... Almeno a chi l'ha fatto? A chi l'ha fatto il discorso, Amato? A chi l'ha fatto? Sono stati riferiti ai genitori e i genitori si sono lamentati. Allora, ma non è vero, lei lo nega questa roba qua, lo nega. Adesso lo nega un altro discorso, ora stiamo parlando in principio. Amato, lei è uno questa scuola prende i soldi pubblici, questa scuola qui prende i soldi pubblici. E che cosa vuol dire? Che se prendi i soldi pubblici lo Stato... Certo, non è che può discriminare tra insegnanti omosessuali, insegnanti che lo pigliano in culo, allora, insegnanti che non lo pigliano in culo, scusi. Secondo lei, allora, se lo Stato dà dei contributi, Stato si può ingerire, giusto? Ma no, non è che si può ingerire, ci sono dei principi fondamentali. Siccome è stata allontanata, anche, soprattutto per questo, perché a un certo punto si è posto il problema della sua omosessualità, lasciamo perdere il modo in cui si è posto questo problema. Si è posto questo problema ed è stata allontanata per questo motivo. Lei si è allontanata... come dire, di sua sponte perché si è arrabbiata con la superiore. No, anche questo, scusi, se vogliamo essere precisi, non è così. Perché lì non è stato rinnovato un contratto che scadeva il 30 giugno insieme ad altri 30 contratti. E per lei hanno fatto bene? Secondo lei hanno fatto bene? Ma certo. Ma certo. Ma Parenzo, vuoi dire qualcosa invece di stare sotto la doccia, cazzo? Ma scusa, non sono sotto la doccia, ma non me ne frega un cazzo di quello che dice questo qui, guarda, fra. Perché non te ne frega niente? Non ho capito. Non me ne frega proprio niente, perché è uno scandalo, che vengono difese delle discriminazioni, perché di questo si tratta, perché la signora che è stata cacciata dalla scuola ha subito una discriminazione, è uno scandalo che quella scuola riceva soldi pubblici, e anche qualora non ricevesse soldi. Ma perché quella superiore si deve interessare degli orientamenti sessuali della ragazza? Me lo spiega, Amato? Internati dalla ragazza, perché la ragazza ha fatto dei discorsi. E allora, ma anche se avesse fatto, fatto un discorso sul fatto, guardi, è meravigliosa questa cosa qua. Questa qua doveva andare davanti ai ragazzi e dire: sì, è vero, sono lesbica. E perché mi piacciono le donne, perché sono innamorata della mia fidanzata, perché con le donne sto bene, eccetera eccetera. Voi ovviamente non siete obbligati ad essere lesbiche per forza o a essere froci, ma questa è la mia, è il mio status, questo è il mio orientamento sessuale, questo doveva fare, questo, basta con le ipocrisie. Lei ha sottoscritto un contratto in cui prendeva atto dell'ispirazione cattolica della scuola e si impegnava a collaborare per la realizzazione di questa ispirazione. Poi se non andava in una scuola statale, era un amico obbligatorio. Ragazzi, comunque qui stiamo continuando a oltranza, non ce ne vogliamo andare in vacanza, non ce ne vogliamo andare, buonanotte. Amato, aspetta, fermo, che vai via, fermo, manca ancora qualche minuto. Amato, fermo lì. Non avete ancora risposto se definire... Voitiva. Cosa? Un assassino Voitila? Al massimo gli eredi di Voitila quereleranno chi lo definisce un assassino. A cui funerale ci sono stati quasi tutti i capi di Stato. Aspetta un attimo, che mi sta chiamando. I leader religiosi del mondo che sono andati tutti pazzi fanatici a ossequiare un assassino. Ma aspetta un secondo, aspetta. Toccani dovrebbe bere di meno prima di partecipare alla zanzara. Scusa, aspetta, mi sta chiamando Razzi, non so che vuole. Dimmi, Antonio. Oggi è l'ultima puntata, volevo salutarti e salutare tutti i radioascoltatori. Beh, grazie Antonio, grazie. No, ancora no, non ho finito, sono qua in diretta, sono. Ah, perfetto, ti volevo salutare tutta la redazione, tutti quanti, perché mi sembra che andate in vacanza. Andiamo oggi, noi abbiamo un appuntamento, mi raccomando, No, il 23-24... Pescara. Parenzo, ci sei tu? Ma il 24 quando? Il 23 rientro. Sì, il 23 rientri, sì. 23 ospiti lì a cena. Ci vediamo, capito? A pescare il 23, capito? In diretta stiamo facendo questo incontro, questo appuntamento. Ma di che mese? Di agosto, che mese deve essere? Ma che mi frega? Ma ti pare io sono in vacanza con la mia famiglia? Ma che ti frega? Che fai ad agosto? Ma io il 23 agosto sono per i cazzi miei, ti pare che vado con Razzi a mangiare? Me ne frega. Ha detto vado per i cazzi miei, non vado con Razzi a mangiare, capito? Con come la mia ti famiglia, tratta? Vado con la mia famiglia, vado. Sono famiglia io. Aspetta, aspetta. Che hai detto, Antonio? Di a Davide che sono cazzi suoi se non viene giù. No, ma quello se ne frega, ormai sta solo col figlio. Ma la mia famiglia è un disgraziato. Padovano. Deve scegliere stare con Razzi, che c'è il sindaco è amico mio. Chi c'è amico tuo? Sindaco chi è amico tuo? Bitonci? Di Padova. Ah, Bitonci amico tuo? Amico mio, stavo sedendo con me. Ma perché ti sei incazzato? Perché hai detto che volevi fare del Senato la un bordello, che era una cosa eccezionale. Ti sei arrabbiato, hai detto che non è vero. Ma chi è che si è incazzato? Non lo so, ho letto da qualche parte. No, no, assolutamente. Io che mi sono incazzato. Vabbè. Anzi, c'è qualcuno che mi ha fatto i complimenti. Dice buona la finezza del Senato. E certo, il Palazzo Madama, ma è un'idea eccezionale, io l'appoggio in pieno, giù le serrande sul Senato e facciamo una bella casa chiusa. E ti abbraccio Antonio, ci vediamo il 23 a Pescara, eh? Ciao caro. Ok, ciao. Qui ormai siamo al top totale, eh? Vabbè, mancano 5 minuti ragazzi, 5 minuti alla fine, siamo al top, 5 minuti. Siamo al top ragazzi. 5 minuti alla fine, 5 minuti, fermi tutti. Il Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Allora andiamo a. No, c'è ancora Amato con noi, o no? Amato? Sono qui. Ho scoperto un grande ospite, Amato, battagliero, combatte come un leone, eh. Allora, Amato, io voglio dire una cosa, ma veramente voi volete portare fino in fondo questa querela nei confronti dei Toscani? Certo, è una questione simbolica, perché in galera non ci va nessuno. Questi no, in galera, prevedono... questa querela ho detto, non in galera. Certo, no, ma anche, guardi, ascolti, perché... ma è un reato da cancellare quella roba lì, ma se uno dà dell'assassino al Papa, saranno gli eredi del Papa a prendersela con lui. Ascolti bene. Allora, no, perché qui non è che stiamo offendendo il signor Carlo Wojtyła, defunto, pace all'anima sua, e poi... No, lui è rappresentante... per 1,195 miliardi di persone nel mondo, tanto sono i cattolici, di qualcosa di molto di più, il vicario di Cristo. Ora, si può avere rispetto per questa cosa? Sì o no? Uno ci può credere, non credere, per carità di Dio, ma rispetto. Ora, se queste idiozie di Toscani le avesse detto un avvinazzato all'osteria è un conto, ma se le dice un personaggio pubblico, famoso, celebre, a livello internazionale come lui, è rischioso, è pericoloso, perché induce l'opinione pubblica a ritenere che queste farneticazioni abbiano un senso. E questo è pericoloso, perché si alimenta odio, e non, in questo momento tutto c'è bisogno. Si alimenta odio. Certo. Lei è contro l'aborto, contro l'eutanasia, probabilmente contro i gay, probabilmente pensa che i gay sono malati. No, sì, certo, infatti lei ha la possibilità di dire quello che vuole, ovviamente io difenderò il suo diritto a dire sempre quello che vuole. Probabilmente pensa che i gay sono malati. Quindi lei, scusi, allora lei trova un alleato in lei contro quella follia della legge sull'omofobia. Non c'è dubbio. Scusi un attimo, Amato, voglio capire una cosa. Lei pensa che i gay sono malati? Mi lo dica, io lo so che lei lo pensa, lo dica apertamente. Guardi, ci sono tre ipotesi, io dico subito. Uno, che sono malati, ci sono anche casi di malattia, sì, certo, non c'è dubbio. Poi chi nasce così, e ci sono casi oppure chi viene condizionato dall'ambiente. Sì. Ora, nessuno ha ancora scoperto qual è l'origine. Sì, ma lei, secondo lei è una malattia da cui bisogna curare, cioè si può curare? Guardi, a lei piace le provocazioni. Io dico che l'omosessualità è una grave depravazione. Una grave depravazione. Parenzo, di qualcosa in chiusura. Lo dice il catechismo della Chiesa Cattolica. Una che ha detto, mi ripete esattamente la frase. Una grave. Mi devo parlare. Una grave. Della Chiesa Cattolica. L'omosessualità è un insieme di atti intrinsecamente disordinati e contrari al diritto naturale. Ma lo sai cosa dice San Paolo nella lettera ai Corinzi Romani? Ma è tutto finito. Parla di grave depravazione contro i sodomiti. Sì, lo so che lei vuole cancellare San Paolo. Cioè, sono sodomiti. Cioè, anzi, sai cosa dice il catechismo della Chiesa Cattolica? Che il peccato dei sodomiti. puniti, è uno dei quattro peccati che grida, grida ma su, lei li punirebbe dal punto di vista, li punirebbe così, no, col codice penale? No, io li punirei, tra l'altro quello che sostengo io, ma si devono, devono chiedere perdono davanti a Dio secondo lei? Questo è il problema che riguarda la coscienza, certo. Certo, ma no, certo cosa, certo, certo un cazzo. La grande maggioranza degli omosessuali, diretta a me, Luciani. Sì, che fanno, che hanno? La grande maggioranza degli omosessuali non gliene frega niente, né del matrimonio, né dell'adozione, vivono la loro omosessualità. E sono Lorenzo, vuoi dire qualcosa? Vuoi esprimere un'opinione in chiusura di questa puntata, in chiusura di questa stagione? Assolutamente no, perché abbiamo parlato di queste cose per tutto l'anno, esattamente delle stesse identiche cose, con persone anche molto molto molto meno autorevoli di questo simpatico. David? Per la vita. David? David? Sì. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma adesso vado sotto la doccia. Questo era per Parenzo, questa voce fuori campo. Beh, Amato numero uno. Ciao Amato, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Buona giornata. Ragazzi, chiudiamo qui questa stagione della Zanzara. Addio. Addio un cazzo. Addio. Questa trasmissione, questa trasmissione non, non potrebbe andare in onda senza il contributo fondamentale nell'ordine, un ordine diciamo alfabetico così a spanne, aspetta un attimo, alfabetico, alfabetico, semplicemente alfabetico. Allora, chi viene prima? Riccardo Buccero, applauso. Mettetemi l'applauso. Laura Marchesi. Questo coglione ha abbassato, è ancora in onda Parenzo oppure sarà andato a fare la doccia questa destra? Ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Aspetta, aspetta, fermo. Laura Marchesi, abbiamo detto. Riccardo Poli. E i tecnici strepitosi Pietro Lacorte. Valeria Bernardi. Ovviamente le meravigliose, splendide, pure carine in qualche caso, centraliniste. Datemi i nomi però, adesso non mi ricordo più la mazza. Nicole Santini sicuramente. Silvia Camisasca. Basta, forse c'è un'altra, poveraccia, lasciamo fuori. Parenzo, vai a fare in culo, va. Ci sentiamo a settembre, ciao, ciao amico, ciao, ciao. Prima che mi dimentico, ve lo dico da amico a tutti. Buone vacanze a tutta la redazione di Radio 24. Voi ci dovete far smellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Porca la puttana, è andata a fanculo!